Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, Tempo di Sport fino alle 19 con il vostro contributo che richiedo fin da ora, 800 24 00 24, numero verde, prendiamo la linea mentre il Palermo segna al Genoa il gol del 4-2, lo realizza il grande protagonista di questa gara finora in versione assist man, e cioè Fabrizio Miccoli. Siamo alla mezz'ora di gioco, Palermo che era partito con l'handicap, cioè con il vantaggio del Genoa, la rete di Palacio, curiosa, di coscia, di ginocchio su assist di Gilardino, e poi Budan di testa su un meraviglioso assist di esterno destro pennellato di Miccoli. Al 37esimo il colpo di testa di Silvestre per il 2-1 dei rosanero, che hanno giocato molto bene, sono ancora una squadra convalescente, ma sono, il Genoa è chiaramente una banda del buco. Il 3-1 di Mantovani al 41esimo del primo tempo, e poi il fallo di mani di Balzaretti, che ha molto protestato ed è stato anche ammonito da Romeo per questo, che sosteneva di aver prima sfiorato il pallone di piede, poi il fallo di mano è piuttosto netto e chiaro, secondo me era rigore, Palacio l'ha trasformato per il 3-2, ed ora Miccoli che prova a chiudere questa partita. Una domenica, vi dico subito, mentre il Milan sta, insomma, completando l'operazione Novara, sta vincendo 2-0, tra l'altro il gol del 2-0 è stato segnato proprio un paio di minuti fa da Robinho, tra poco ve lo racconteremo. Una domenica che è stata aperta, una splendida notizia arrivata da uno dei templi dello sci, anzi dal tempio con tutte le maiuscole necessarie, cioè Kitzbühel, dove c'è stata la vittoria di Christian De Ville, prima vittoria per lui in slalom, davanti a mostri come Mario Mata e Ivica Kostelic, settimo Razzoli. Comunque un'altra grande domenica, un altro grande weekend con l'argento di ieri della Brignone per il nostro sci, ma questa pista, quella di Kitzbühel, è davvero magica, la Strife, e vincere lì è qualcosa riservato ai grandi. Però se volete ne parliamo anche insieme, 800 24 00 24. Resterei invece sulla cronaca calcistica, perché dicevo il Milan sta vincendo 2-0 a Novara, c'è anche il Napoli che sta perdendo in maniera secondo me meritata a Siena 1-0, il gol è stato realizzato da Calaiò. C'è una partita abbastanza pazza a Lecce, dove conduce 2-1 il Chievo, con doppietta di Esposito di Paloschi, scusate, per il Chievo in apertura, su due topiche vistosissime della difesa del Lecce, che insomma siamo a quella del Genoa, mi sembra quella messa peggio. Doppietta di Paloschi, terzo e 24esimo, e poi Esposito che ha sulla coscienza il gol del 2-0 dei Veneti, che di testa su azione di calcio d'angolo segna e poi prova a chiedere scusa a tutto il pubblico per l'errore commesso in precedenza, quando si era addormentato letteralmente sul pressing di Pellissier, consentendo a Paloschi in pallonetto di segnare la rete del momentaneo 2-0. L'Udinese invece, nel segno di Armero, che oggi ha segnato e fatto segnare a Di Natale un gol meraviglioso, segnato al 20esimo del primo tempo e fatto segnare all'ottavo della ripresa, Udinese che vince 2-0 col Catania. Saluto Giovanni Capuano, andiamo subito in cronaca. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, subito in cronaca perché c'è un calcio di rigore per il Napoli, sul dischetto c'è Cavani, siamo al 34esimo minuto di questo secondo tempo, calcio di rigore assegnato per un contatto in area di rigore tra D'Agostino e Lavezzi, con grandi proteste da parte dei giocatori del Siena, rigore parato però, parato, l'ha tirato malissimo Cavani, l'ha tirato centrale sulla destra di Pegolo, a mezza altezza, Pegolo si è allungato, gli ha respinto il pallone, dunque Napoli che manca l'occasione per il gol dell'1-1, dicevo un calcio di rigore molto contestato, anche se in realtà il contatto fra Lavezzi, che era riuscito a portare via il pallone all'ultimo istante, e D'Agostino, che era arrivato in ritardo, a me era parso tanto involontario quanto netto. Comunque sia, calcio di rigore sbagliato da Cavani. Quindi secondo te c'era? Ma sì, certamente D'Agostino non aveva intenzione di andare sul giocatore del Napoli, però bisogna anche dire che Lavezzi era stato più veloce a spostargli il pallone e, sì, di sicuro non ha né simulato né accentuato, credo, il momento dell'impatto. A me così a vista è sembrato un calcio di rigore abbastanza netto. Tanto sempre per la cronaca vi do il risultato di una partita molto attesa, che è quella di c'è il doppio confronto oggi Manchester-Londra. Il primo è andato al Manchester City di Mancini e Balotelli, 3-2 sul Tottenham, tra l'altro 2-0 per il City. 2-2 con il Tottenham che rimette in piedi la partita. Al 90esimo Balotelli su rigore dà la vittoria agli azzurri di Mancini, e poi ci sarà anche Manchester United Arsenal. Dimmi del Milan, Giovanni. Del Milan ti dico che ha fatto un primo tempo di assoluto dominio, quasi un assedio in alcuni tratti, ha avuto tantissime occasioni con Robinho, con lo stesso Ibrahimovic, con Thiago Silva in occasione di un calcio d'angolo. Il Novara si è salvato un po' grazie ad Uicani, che è in una domenica particolarmente positiva, un po' anche con un paio di rimpalli fortunati dalle parti della linea di porta con Caracciolo e Gemiti. Nel secondo tempo Allegri ha tolto Antonini e messo El Shaarawy, questo ha dato ancora una volta un po' più di rapidità in attacco al Milan. In realtà questa è una costante di queste ultime settimane, El Shaarawy da questo punto di vista è un giocatore che aiuta molto il Milan ad aprire, a spaccare le partite, a cambiare passo. E così nel secondo tempo poi sono arrivati i gol di Ibrahimovic prima e di Robinho poi. Una vittoria che è difficile dire non scontata, perché il Milan ha davvero dominato fin qui questi primi 75-80 minuti a Novara. Certo che con il passare dei minuti poteva essere una partita che si complicava. Direi comunque un Milan anch'esso convalescente, ma che sicuramente non sta malissimo, anche no, considerata la quantità delle assenze in questo pomeriggio. Poi c'è questo fattore Shaarawy, che è un fattore che sta diventando sempre più importante. Se credo Allegri se ne convincesse un po' di più, potrebbe dare credo qualcosa di più al Milan in questo momento. Sì, anche perché è il più fresco, è evidentemente il più brillante degli avanti del Milan. Va detto che Allegri, mentre il Milan è ancora in attacco con Ibrahimovic che danza al limite dell'area di rigore, prova a saltare un avversario, non ci riesce, ancora il Shaarawy, il suo diagonale che finisce fuori. Allegri che ha cambiato insomma, l'assetto, spostando, togliendo Antonini, spostando Emanuelson in un ruolo forse più praticabile per lui, che è quello di esterno sinistro, e poi inserendo il Shaarawy davanti. La differenza si è vista in linea di massima in questa ripresa. Va detto che il Milan comunque anche nel primo tempo è stato molto pericoloso, appunto, con Thiago Silva e Nocerino. Una curiosità, io sono entrato in studio e mi sono infilato le cuffie proprio mentre il Milan sviluppava l'azione del 2-0. C'è stato un tocco di mano di Nocerino, o sbaglio? Sì, c'è stato un tocco di mano Nocerino. I giocatori del Novara hanno anche protestato sulla partenza dell'azione. Un pallone che in realtà è schizzato sulla mano di Nocerino a me è parso abbastanza netto. Io credo che in questo caso il direttore di gara abbia preferito ritenere che il tocco fosse involontario, perché è nato appunto da questo rimpallo sul piede dello stesso Nocerino. Poi Nocerino comunque si è portato il pallone sul fondo, l'ha rimesso in mezzo, è arrivata la conclusione del Shaarawy. Sul secondo palo c'è stato Robinho. Ci sono state delle proteste da parte dei giocatori del Novara, però effettivamente un tocco di mano di Nocerino in partenza di azione c'era. Sì. Intanto mentre c'è il Napoli che ci prova a Siena con un tiro di Pandev deviato da un difensore senese, al momento inganna Pegolo. Napoli che ci prova, si rivede Lavezzi dopo l'infortunio prenatalizio del 22 di dicembre. È entrato nel secondo tempo, chiaro che Lavezzi, che non mi sembra in grandissime condizioni, comunque aggiunge qualcosa, anzi aggiunge molto alla qualità offensiva del Napoli. Vi do due notizie che sono una, quella di Cagliari, dove attenzione perché c'è il Palermo che dilaga contro la banda del buco genovese, 5-2 per il Palermo, no Giovanni? Sì, Migliaccio colpo di testa ravvicinato, 5-2, Genoa davvero inguardabile in difesa, Palermo che ha trovato delle autostrade anche nel primo tempo. Questo gol del 5-2 che direi chiude definitivamente questa partita e salva anche la panchina, almeno per il momento, di Bortolo Muti, che ha iniziato questo pomeriggio col rischio dell'esonero e del ritorno di Mangia sulla testa. Visti gli ultimi risultati, mamma mia, Migliaccio davvero da solo al limite dell'area piccola, ha potuto saltare e metterla in porta. No, impraticabile la fase difensiva del Genoa, davvero qualcosa di orrendo. Comunque Muti, che peraltro oggi era partito molto male incassando il gol di Palacio, non è che la fase difensiva del Palermo sia un granché, comunque era partito molto male incassando il gol di Palacio, e poi ha rimesso in piedi questa partita con pieno merito, va detto. Ero al fronte delle notizie, Cagliari-Fiorentina sono in ritardo di mezz'ora, perché è successo questo, la Fiorentina è stata praticamente costretta a una partenza ritardata dall'albergo in cui abitava lì a Cagliari per una protesta dei lavoratori dell'Alcoa che hanno in pratica impedito la partenza della squadra viola per tempo per lo stadio, e dunque la partita è iniziata con 30 minuti di ritardo. L'altra notizia arriva dall'anticipo delle 12:30, Bologna-Parma 0-0, partita bruttissima, è a caso di dirlo, però qui si è verificato un episodio un po' da libro cuore, no, se vogliamo, perché nell'intervallo in pratica il capitano del Parma, Morrone, è stato avvertito di un problema che pareva serio avuto dal figlio di pochissimi mesi, ed è stato autorizzato da Donadoni a tornare a casa praticamente nell'intervallo. Il problema, per fortuna, del bimbo si è risolto, e questa vicenda è stata poi raccontata nel dopo partita, con tanto di ringraziamenti di Donadoni all'arbitro Bergonzi, che pure si è adoperato avvisando i bolognesi di quanto stava accadendo. Secondo tempo che ha iniziato con un po' di ritardo per questa vicenda, insomma, questo è successo nel pomeriggio a Bologna. Cosa sta succedendo invece a Siena? Ce lo dice Giovanni Capuano. Che non trovo. Ve lo dico io allora. Con Pandev che segna il gol dell'1-1, siamo al 42esimo minuto. Napoli che si era messo a premere forte, ovviamente, dopo lo svantaggio, ricordiamo il rigore sbagliato da Cavani, e adesso c'è questo magnifico colpo di testa di Pandev dall'altezza del dischetto del rigore, che trasforma un cross altrettanto bello e preciso, un cross in corsa di Dossena, per il gol dell'1-1. Dunque, ripeto, Siena-Napoli 1-1. Vi do anche gli altri parziali mentre stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco praticamente su tutti i campi, salvo che a Cagliari, dove persiste lo 0-0 tra l'altro, e dove siamo in ritardo di mezz'ora. Per il resto il Chievo sta vincendo 2-1 a Lecce, con Lecce che si sta provando con tutte le sue forze, ma finora senza risultati. Il Milan che sta completando l'operazione Parma, non riuscirà naturalmente il Milan a raggiungere oggi la Juventus, campione d'inverno, e questo è forse il grande tema di giornata, su cui vi sollecito 800240024, a cui vi dico: io mi sono sbagliato su Antonio Conte, mi sono in parte sbagliato su questa squadra che non credevo da subito così competitiva come la Juventus, che tra l'altro ieri ho visto a Bergamo in ripresa rispetto alle ultime esibizioni, quella di Lecce e la partita di domenica scorsa contro Cagliari. Ieri l'ho vista in ripresa, un 2-0 sul campo di un Atalanta evidentemente in regressione, evidentemente in difficoltà, immagino anche con tutte le chiacchiere relative alla storia delle scommesse. Immagino che questo abbia un peso importante su questa fase del campionato dell'Atalanta. Comunque ieri la Juventus l'ho vista più brillante rispetto al solito. Ci sono un paio di infortuni che un po' preoccupano, poi vi do anche il bollettino, non sono certi i tempi di recupero, però sono due infortuni che potrebbero tenere Marchisio e Pepe fuori per qualche partita forse. Però Juventus con pieno merito campione d'inverno. Ne parliamo insieme dopo. 800 24 00 24, numero verde traffico. Strade in diretta. Incidente tra due auto sull'autostrada in Toscana, tra gli svincoli di Arezzo e Valdarno, la circolazione è bloccata verso Firenze, ci sono code nelle due direzioni e si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. Ci sono code per un incidente anche sulla 8, la Milano-Varese in direzione di Milano tra Legnano e Lainate, mentre le code in Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia verso Genova, tra Finale Ligure e Spotorno, sono per lavori. Possibili disagi domani in tutte le grandi città per lo sciopero dei taxi, che si fermeranno dalle 8 del mattino alle 22 nella capitale. I manifestanti presidieranno il Circo Massimo a Milano, auto bianche riunite davanti allo stadio San Siro. A Bologna sfileranno in centinaia a Passo Duomo dalla periferia al centro per fermarsi in piazza 8 agosto. Noi torniamo tra mezz'ora. A Tempo di sport. Penso sia tornato Giovanni Capuano giusto in tempo per raccontarci un paio di gol. No, non è tornato, allora ve li racconto io. Uno è a Palermo e non conta per risultato, 5-3 sempre per il Palermo, segna il Genoa con Jankovic. Anche questo non conta per il risultato, però è lo 0-3 del Milan a Novara, lo realizza ancora Ibrahimovic, vediamo come. Uscita ma pessima di Wiccani, portiere del Novara, che smanaccia una cross di esterno, anche qui bella cosa di Sharawi, cross di esterno destro, su un tocco ricevuto di Ibrahimovic, Wiccani esce malissimo, smanaccia questo pallone e Ibra con le spalle alla porta colpisce di tacco in maniera beffarda, ma non poteva fare altrimenti su questa palla che gli stava arrivando, spalla alla porta, colpisce di tacco e segna il gol del 3-0, sua personale doppietta. Saluto e ringrazio Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. Che ci tiene compagnia in questo finale delle partite di calcio, parlando della pallovale invece, con un 6 nazioni che si avvicina, e a questo proposito vi do subito un appuntamento a tutti gli appassionati e a tutti gli sportivi. Prossimo sabato, che sarà l'ultimo prima dell'inizio del 6 nazioni, avremo una lunga chiacchierata che Giacomo Bagnasco e Dario Ricci hanno fatto con il nuovo CT della nazionale italiana, Brunella. Cosa ha detto? Ma guarda, sostanzialmente ha detto che... Tanto per dare qualche anticipazione, senza svelare troppo. Ma diciamo che ha detto, intanto ha ripronunciato la sua parola chiave, che è la parola equilibrio, e secondo me di equilibrio è fornito anche a livello psicologico Jacques Brunel, e quindi ha detto che intanto l'Italia dovrà avere un gioco più equilibrato tra gli avanti e tra i quarti, tra le opzioni al piede, le opzioni alla mano, tra le scelte da effettuare tra l'attacco e la difesa, facendo capire ma che punta a un'Italia più propositiva, ha ribadito il suo ottimismo, i suoi obiettivi, che sono obiettivi se vogliamo anche esagerati, in questo momento obiettivi anche di vittoria del Sei Nazioni nel giro di 3 anni. Però ecco, diciamo che è passata una persona molto concreta, e la sua concretezza si è vista anche da subito nel cercare di ampliare la rosa a disposizione. È andato al di là di quello che aveva detto appena preso l'incarico, aveva detto ma per il primo anno, per il primo Sei Nazioni non ci stanno cambiamenti, invece qualcosa ha tentato di cambiare anche subito, anche nei raduni di preparazione a questo Sei Nazioni, convocando dei ragazzi molto giovani, e la speranza è quella che lui riesca a monitorare bene tutto il movimento, perché è impossibile che in un movimento comunque in sì. crescita a livello numerico non spunti qua e là un giocatore veramente di livello, insomma, siamo sì. Soprattutto per certi ruoli siamo veramente fermi, siamo veramente Gli interpreti sono gli stessi giocatori da moltissimi anni. Vogliamo molto bene a Capitan Paris, tra l'altro confermato capitano da Brunella, vogliamo molto bene a Castro Giovanni, vogliamo molto bene a Perugini, a tutti questi, ai Bergamasco, a tutti questi giocatori che però vediamo lì da un sacco di anni senza che del nuovo si affaccia alla finestra del rugby. Movimento che ha prodotto quali risultati nel fine settimana? Guarda, per quanto riguarda il fine settimana abbiamo una conferma al di là dei risultati, che è quella del Benetton, che ha appena finito di giocare a Treviso in Heineken Cup, era l'ultimo turno dei gironi, della fase a gironi, e le italiane come al solito sono uscite tutte, però il Benetton giocava contro i campioni Inghilterra dei Saracens, che erano i primi nel loro girone, e a Treviso hanno perso 26-20 giocando una partita alla pari, finendo il primo tempo in vantaggio 17-10 ed erano 20 pari a pochi minuti dalla fine, con Pavanello e Boz che poi sono andati a un passo dalla fine, quindi dalla possibilità di ribaltare il risultato. Bene il Benetton, male gli se non malissimo, e insomma bastava poco per non fare malissimo. Giacomo, posso interromperti un istante così entro in cronaca per dare il pareggio del Lecce al 48esimo, segna di Michele, non ho ancora visto il gol, ho solo visto l'esultanza smodata di Serse Cosmi, e il Catania in questo momento accorcia le distanze a Udine con un rigore di Lodi, anche qui siamo al 50esimo di questa gara, quindi in pieno tempo di recupero. Succede ancora qualcosa a Lecce? con un rigore, credo, reclamato dal Chievo. Gara sul 2-2, lo ricordo, questa di Lecce, con rigore reclamato dal Chievo, che forse, vista così, l'ho visto da un'angolazione non correttissima, però poteva anche starci. Dunque, al 50esimo, ripeto, il rigore di Lodi invece, che porta il Catania sul 2-1 a Udine. Il Milan sta vincendo 3-0, Lecce-Chievo 2-2, Palermo 5, Genoa 4, Siena 1, Napoli 1, Udinese 2, Catania 1. Risultati ancora tutti da confermare, non sono ancora finali, nessuno di questi è ancora finale. E 0-0 tra Cagliari e Fiorentina, dove manca ancora parecchio perché la gara è iniziata con mezz'ora di ritardo. Prego Giacomo. Sì, dicevamo che gli Aironi, dopo aver perso in maniera umiliante e concertante 82-0 in casa dal Clermont, hanno giocato a Leicester in Inghilterra 33-6 il finale, 9-6 il primo tempo, tutto sommato una partita sicuramente un po' migliore. Male come al solito tutte le squadre della Challenge Cup, la seconda Coppa Europea, hanno perso. I Cavalieri in Galles coi Dragons 45-16, ha perso in casa il Petrarca 50-6, e in attesa del risultato della partita di Bayonne dove sta giocando il Rovigo, la sconfitta più grave è quella dei Crociati Parma, che anche in casa hanno perso dai rumeni del Bucarest 26-13. E qui, caro Carlo, se il Rovigo non fa un miracolo a Bayonne succederà questo, quello che non era mai successo negli anni più bui per quanto riguarda la Challenge Cup. Quattro squadre che hanno giocato 6 partite a testa, quindi 24 partite, 24 sconfitte. Qui c'è da ripensare qualcosa sulla partecipazione di queste formazioni che ormai evidentemente non sono all'altezza di un movimento rugbistico europeo che è cresciuto, mentre avendo loro dato queste formazioni italiane, dato soprattutto i migliori giocatori alle franchigie, probabilmente non dovrebbero più neanche mandate a fare queste figure, anche se sono figure che lo penso anch'io, anche perché non ci permettono di crescere, non sono funzionali a nulla, nemmeno al discorso della nazionale. Dunque sono partecipazioni che economicamente ai club possono venire, ma certo. nel breve periodo io credo che non convengano a nessuno. Forse potrebbe pensare a 2 selezioni che partecipano, certo, loro questo sì, ma nemmeno dal punto di vista dell'immagine del rugby possono servire queste continue batoste, questo rosario di sconfitte che raccontiamo ogni settimana, ogni weekend in cui ci sono le coppe europee. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Alla prossima. Io vi do invece tutti i finali in Serie A, salvo ovviamente quello di Cagliari Fiorentina 0-0 23esimo della ripresa. Finisce 2-2 tra le proteste del Chievo per un fallo in area proprio all'ultimo respiro di questa partita, così come al penultimo respiro di Michele aveva pareggiato dopo la doppietta di Paloschi al terzo e al 24esimo del primo tempo, il gol di Esposito al 30esimo sempre della prima frazione del 2-1 e poi appunto il gol di Michele in mischia al 48esimo del secondo tempo. 3-0 del Milan a Novara, Milan che ha la necessità di vincere per non perdere il passo dalla Juventus campione d'inverno, lo ha fatto nella ripresa dopo l'ingresso di El Shaarawy al posto di Emanuelson, El Shaarawy che non ha segnato ma ha cambiato il passo dell'attacco del Milan, che pure era stato pericoloso nel primo tempo, soprattutto con Thiago Silva e Nocerino. Ebbene, 12esimo il gol di Ibrahimovic, 29esimo vale la pena sottolineare il gol di Ibrahimovic, un meraviglioso assist di Ambrosini da rifinitore, che ha pescato col contagiri il taglio di Ibrahimovic a centroarea. 29esimo segna Robinho correggendo un tiro cross di El Shaarawy e al 45esimo, al 90esimo, Ibrahimovic segna il gol del 3-0. Il Palermo batte il Genoa 5-3, finisce 1-1 tra Siena e Napoli dopo molta sofferenza partenopea. L'Udinese batte 2-1 il Catania e continua a correre in testa. Subito dopo il giornale radio torniamo naturalmente su questa partita e vi do la classifica giornata in attesa di Inter-Lazio, che chiuderà il programma dell'ultima di andata questa sera e cominceremo magari a parlare insieme. 800 24 00 24, numero verde. E adesso aspetto gli ascoltatori a commentare quest'ultima giornata di andata, una giornata che incorona la Juventus campione d'inverno. Cosa successe ieri? Una giornata che conta al momento 28 gol, con una partita ancora in sospeso. che è Cagliari-Fiorentina, che è ancora in corso, è sullo 0-0, uno dei pochi di giornata ed è iniziata con mezz'ora di ritardo, ve lo ricordo. Domenica da 28 gol così distribuiti, a cominciare dal 5-1 di ieri della Roma e dallo 0-2 della Juventus a Bergamo, che ha dato ai bianconeri, ad Antonio Conte, su cui, ripeto, mi ero sbagliato prima dell'inizio del campionato, perché non pensavo potesse subito fare così bene alla guida di una squadra che viene dalle stagioni disastrose da cui arriva, con una società che non... Fino ad ora non era stata in grado di creare un ambiente, come dire, ideale per gli allenatori che di lì sono passati. È evidente che i risultati aiutano e Conte con pieno merito ha conquistato questo titolo d'inverno. Conte con pieno merito non ha mai perso nessuna partita ed entra nel ristretto club degli allenatori che hanno questa striscia aperta, 19 naturalmente Antonio Conte. Ebbene, una Juventus che vince a Bergamo, che guida la classifica con 41 punti, vincono le prime tre, lo fa il Milan, l'ha fatto il Milan oggi pomeriggio a Novara 3-0 dopo aver sofferto un tempo, in realtà molto attaccato un tempo senza cavare troppi ragni dal buco, nonostante un colpo di testa di Thiago Silva salvato sulla linea da Caracciolo, guardate un po' lo stopper che si va a salvare il gol sulla linea dal centravanti. Un destro bellissimo di Nocerino in girata fuori di un millimetro al 30° primo tempo. Nella ripresa è entrato il giocatore offensivo più brillante del Milan in questo momento, cioè El Shaarawy, al posto di Antonini, con Allegri che si è deciso, anche visto l'avversario, la necessità di vincere questa partita, a spostare decisamente in avanti il baricentro del Milan ad aumentare la qualità. Fuori Antonini, Emanuelson che scala nel ruolo del laterale sostituito, ed El Shaarawy che ha dato chiaramente vivacità al gioco del Milan, tra l'altro propiziando il gol del 2-0 di Robinho. Il primo invece era stato pennellato da un assist di Ambrosini su un taglio di Ibrahimovic al 12° del secondo tempo, quindi al 29° appunto Robinho a deviare da un metro il tiro cross di El Shaarawy, per la verità dopo un controllo un po' sospetto di Nocerino, come si diceva prima in cronaca. Il 3-0 lo segna Ibrahimovic di tacco su una respinta da coprirsi gli occhi, da bollino rosso di Wicani, pur bravo portiere del Novara, che esce malissimo su un cross del solito El Shaarawy. Ibrahimovic era a spalla alla porta, non poteva che colpire di tacco, cosa che ha fatto a porta sguarnita peraltro. Dunque 3-0 del Milan, che resta ad un punto dalla Juventus. Gara bizzarra quella di Lecce, con il Chievo che passa due volte in 24 minuti, la prima volta al terzo, Paloschi che sfrutta un rimpallo tra Tomovic ed Esposito, rivedibili difensori di Cosmi, e segna di destro l'1-0 al 24° lo stesso Paloschi, dopo che Esposito si era addormentato comicamente sul pressing di Pellissier. Esposito, difensore centrale del Lecce, al 30° va a segnare il gol di testa, il gol del 2-1, e quindi chiede scusa allo stadio intero per la fesseria fatta pochi minuti prima. Al 48° della ripresa Di Michele fa impazzire di gioia Serse Cosmi, dando al Lecce il 2-2, peraltro secondo me meritato. La banda del buco genovese non si smentisce a Palermo, perdendo 5-3, Genoa che era pure passata in vantaggio con Palacio dopo 14 minuti, e poi è arrivata la raffica rosanero che salva la panchina di Bortolo Mutti, 27° Budan, 37° Silvestre, 41° Mantovani, primo tempo che finisce 3-1, quindi il rigore di Palacio al 13° della ripresa per il 3-2 sempre per il rosanero. Quindi Miccoli migliore in campo mi pare oggi del Palermo per il 4-2, Migliaccio per il 5-2 e Jankovic al 44° della ripresa per il 5-3 finale. Napoli che salva la pelle a Siena dopo essere passato in svantaggio al 23° della ripresa con il gol di Calaiò, che peraltro ha colpito nel primo tempo una traversa che grida vendetta dopo un errore pazzesco pacchiano di Cannavaro. 42° Pandev di testa dall'1-1 a Mazzarri. L'Udinese continua a vincere nel segno di Di Natale e Armero segna il primo gol al 20° primo tempo, fornisce l'assist a Di Natale sul meraviglioso gol del 2-0, Lodi al 50° alla ripresa su rigore per scrivere questo risultato definitivo sul tabellino. Allegri con Sky. Ha fatto meglio perché è un punto di più, comunque mancano ancora 19 partite, il campionato è lungo, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Provo a riassumere tutto quello che stavano dicendo in studio prima dell'intervista. Ieri lei aveva detto alla vigilia, beh, conta la vittoria, poi come viene, insomma, è una cosa che passa in secondo piano. Oggi è contento anche per come è venuta a 360 gradi o c'è qualcosa che non l'ha convinta? No, abbiamo fatto un'ottima partita sul piano tecnico. Credo che dopo il 2-0 c'è stato un momento di confusione. Abbiamo un pochino smesso di giocare, poi dopo abbiamo ripreso. I ragazzi hanno creato molto, già nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Abbiamo preso credo un contropiede all'inizio del secondo tempo, però la vittoria non è mai stata in discussione e soprattutto la squadra sta bene fisicamente e era importante, ripeto, tornare alla vittoria. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, le chiedo di commentare due episodi. Uno riguarda il gol di Robinho, hanno protestato molto a Novara per un fallo di mano vero presunto di Nocerino, volevo sapere cosa ne pensa lei, fra l'altro lì è scoppiata una pagnolata alla novarese, cioè hanno iniziato a tirarle dei fogli di carta dalla tribuna. E la seconda cosa che voglio farle commentare, e poi sarà dopo questa, l'esultanza di Ibrahimovic sul 3-0. Partiamo dal tocco di Nocerino. Ma non commento perché ultimamente ho commentato i rigori, soprattutto in quello di Bergamo, sono stato attaccato da tutti, quindi non commento più niente come facevo prima. Ritorno a non commentare quello che succede in campo. Oddio, mi è sfuggita Allegri. Quando mai l'abbiamo attaccata nel commento? Non qui. Dall'altra parte. No, si riferisce alle polemiche con Mediaset che sono ben note, ma mi sembrano anche abbastanza acqua passata. Io vi dico che questo gol era probabilmente, anzi, era da annullare perché il fallo di Nocerino mi sembra piuttosto evidente. La palla salta male, è vero, però Nocerino la mette a terra con la mano, poi effettua il cross da cui El Shaarawy fa partire questo tiro cross deviato in porta da Robinho. Sentiamo se Allegri dice qualcos'altro. Ha fatto un gran gol su Ibra. E credo che Ibra sia un giocatore, anche oggi ha dimostrato di essere un campione importantissimo e credo che stia facendo grandissime cose. Ilario, anche questo numero, 13 gol nelle ultime 12 partite per Zlatan Ibrahimovic. Calma gesso con El Shaarawy, perché è vero che sta molto bene, è vero che si sta inserendo nel Milan, però scrivere come fa Claudio, un ascoltatore al 349-238-6666, Patu può partire, il faraone diventerà un fuoriclasse, mi sembra un po' tanta roba. Attesa che gli ascoltatori si sveglino dal letargo, dal pisolino pomeridiano, 800-24-00-24, numero verde, vi do il bollettino di giornata per quanto riguarda la Juventus, che ieri è tornata da Bergamo con i 3 punti, il titolo di campione d'inverno, ma anche con 2 giocatori molto importanti, con degli acciacchi, lieve distorsione del ginocchio destro per Claudio Marchisio, distorsione alla caviglia destra per Simone Pepe. Per Marchisio la risonanza magnetica non ha evidenziato lesioni meniscali, mentre Pepe ha avuto un lievissimo interessamento del legamento peroneo astragalico anteriore. Non sono noti i tempi di recupero, ma non sono infortuni seri questi di 2 giocatori determinanti per una Juventus su cui, lo confesso e adesso ne parlo col mio ospite, mi ero sbagliato su Conte, mi ero sbagliato su questa squadra. È il momento di fare un primo parziale bilancio dopo la fine del girone d'andata. È chiaro che la prima metà di scudetto nulla conta, però la statistica dice che molto spesso, 7 volte su 7 nelle ultime stagioni, chi lo vince poi si cuce anche l'altra metà, quella più importante e più difficile. Certamente questo titolo è strameritato, secondo me, non so, secondo Alberto Cerruti, prima firma del calcio sulla Gazzetta. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Sì, è strameritato questo primato della Juventus e dobbiamo riconoscerlo molto sorprendente, perché nessuno immaginava che la Juventus potesse essere campione d'inverno davanti al Milan, e quindi i complimenti vanno soprattutto a Conte, che è il grande artefice di questo straordinario mezzo campionato della Juventus. È vero, le statistiche dicono che 7 volte su 10 si vince anche lo scudetto vero, però il Milan fa bene a sperare di far parte di quei 3 casi su 10 che ribalterebbero, certo, la Juventus. Sì, certo Alberto, il Milan fa bene anche perché continua a considerare il Milan la grande favorita per questo titolo. Il Milan è più forte della Juventus, certo che la Juventus è stata bravissima fin qui anche a monetizzare gli errori seminati per strada dal Milan. Tu fai bene a dire che gran parte del merito è di Antonio Conte, perché mi sbagliavo, perché non ritenevo che in una situazione ambientale come quella della Juventus, reduce dai disastri delle ultime stagioni e con una società che non mi sembrava il massimo della vita ancora in termini di solidità a difendere un allenatore esordiente, Io in estate dicevo, ma forse alla Juve serve qualcuno un po' più carismatico, un po' più esperto, qualcuno che conosca la strada per lo scudetto, anche in grado di fare da parafulmine in caso di rovesci. Non è stato necessario, anche perché Conte non è mai stato in difficoltà in realtà, non ha mai perso, ma non è mai stato in difficoltà in questo avvio di stagione. La Juventus non è mai stata in difficoltà. Sì, è vero, la Juventus è imbattuta e questa è la sorpresa nella sorpresa, perché nella sua storia la Juventus, con qualsiasi allenatore, in qualsiasi annata scudetto, non aveva mai terminato il girone d'andata senza sconfitte. Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, ecco, dobbiamo vedere come reagirà la Juventus alla prima sconfitta, perché io non credo che riesca a concludere il campionato in battuta. Ecco, in quel momento si vedrà davvero la forza nervosa e caratteriale della Juventus. Ricordiamo che sabato prossimo, nell'anticipo, ci sarà Juventus-Udinese, la sera successiva ci sarà Milan-Cagliari. Può essere che la Juventus pareggi, che il Milan batta il Cagliari, in questo caso il Milan sarebbe per la prima volta in testa davanti alla Juventus. Ecco, bisogna capire quale può essere la reazione caratteriale nervosa di una squadra che fin qui è andata oltre i propri limiti fisici, tecnici e atletici. Certo, io poi ho degli ascoltatori che mi scrivono vari messaggi, un po' esagerando secondo me, quello che ho letto prima, Pato può partire, il Faraone diventerà un fuoriclasse, riferito ai Sharawi. Oppure un altro ascoltatore, ma serve cercare Tevez se c'è un brillante Faraone a costo zero? È chiaro che il Sharawi sta dando qualcosa, o molto, dimmelo tu, in questo spicchio di stagione del Milan. È chiaro che è brillante, è chiaro che è il giocatore con meno chilometraggio nelle gambe tra quelli lì davanti. Dire che sia già la prossima grande cosa del nostro calcio mi sembra tanto. Ma io riconosco come te che mi ero un po' sbagliato sulla Juventus, perché non pensavo che Conte facesse così bene, non tanto per le sue qualità, quanto perché sembrava legato a un modulo che poi lui stesso ha cambiato, e cambiando il modulo ha trovato la formula vincente. Però devo dire con la stessa onestà che credevo molto nel Sharawi e sì, pensavo che questo ragazzo avrebbe giocato di più. Io sono convinto che sia che possa essere l'arma decisiva del Milan nel girone di ritorno. Mi ricorda molto il primo Balotelli, che fu decisivo nell'Inter di Mancini nelle ultime partite e entrò in squadra come titolare e diede la svolta all'Inter. Io credo che Sharawi meriti di giocare di più. È assurdo far giocare Emanuelson trequartista quando c'è Robinho che può giocare in quel ruolo in assenza di Boateng, e Sharawi oggi avrebbe dovuto giocare dall'inizio. Mi auguro che giochi di più, perché questo è un ragazzo di grandissime qualità che non sono ancora state scoperte del tutto. Alberto, un'ultima cosa, ho seguito con attenzione questa simpatica polemica a distanza, questa non è polemica, è questa disputa accademica sul bel calcio in atto tra Sconcerti, che ne ha scritto ieri sul Corriere della Sera, sa che ha risposto oggi sulle colonne del tuo giornale. Sconcerti diceva, Sacchi non può continuare a dire che tutti giocano male, prendendo a termine di riferimento il suo gioco e il suo Milan, perché era qualcosa di unico e di ripetibile. Sacchi ha risposto, non mi diverto, grosso modo quello che dice sempre, cioè non mi diverto a vedere la gran parte delle squadre di oggi. Ecco, Moratti può averne le scatole piene finché vuole, come ha detto, insieme a Ranieri, però l'Inter non gioca certo un gran calcio. Non credo che l'Inter sia, dal punto di vista estetico, la squadra preferita di Arrigo Sacchi. Ma Sacchi critica tutti perché vuole esaltare il suo Milan, ma credo che in Italia siano pochissime le squadre che giocano bene, e giocano bene soltanto in alcune partite. Anche il Milan in certe partite non ha giocato bene, ha faticato, anche la Juve ha faticato. Chiedere all'Inter di giocare bene mi sembra un'assurdità, perché l'Inter è partita a handicap quest'anno, con quella partenza sciagurata con Gasperini. Ranieri è stato bravissimo, ha rimesso in piedi una squadra che sembrava dovesse lottare per salvarsi, ha vinto il derby con pieno merito, e quindi io credo che a Ranieri in questo momento non si debba chiedere di più. Se l'Inter arriverà terza, perché secondo me difficilmente andrà oltre, Ranieri avrà fatto un capolavoro. Sono d'accordo. Lo dico da adesso, anche se non dovesse arrivare terza, Ranieri merita di rimanere all'Inter l'anno prossimo, perché merita di avere una squadra dall'inizio della stagione. Quindi chiedere a Ranieri il bel gioco, francamente, mi sembra una provocazione. Alberto, ti ringrazio come sempre. A voi, buona domenica. Grazie. A tutti. Grazie ad Alberto Ceruti. Sono d'accordo su quanto detto nella prima parte della risposta ad Alberto Ceruti, cioè che se arrivasse terzo, come è anche possibile, non credo, insieme ad Alberto, che l'Inter arriverà più su di quel terzo posto, che deve essere realisticamente l'obiettivo dei nerazzurri e che dista ancora. Vediamo cosa succede stasera in Inter-Lazio, però dista ancora 6 punti dall'Udinese. Non sono così convinto che a Ranieri verrà, insomma, offerta, anche se un contratto c'è già, verrà offerta una riconferma sulla panchina dell'Inter, perché io credo che Massimo Moratti vada alla ricerca di un nuovo grande allenatore, andrà alla ricerca di un nuovo grande allenatore, non so chi, e di un nuovo progetto. Anche se ieri Ranieri, poi ve lo faccio anche sentire perché è stato divertente, ha detto: bah, adesso vanno di moda gli allenatori che cambiano modulo nel corso delle partite, lo facevo già negli anni 70 col Cagliari, quindi io sono il futuro. Non so se Ranieri sarà il futuro dell'Inter. Finita anche Cagliari-Fiorentina 0-0 e prima di parlare con Giorgio da Caserta e Mario dalla provincia di Milano, primi due di oggi, 8-0-0-24, vi do una classifica che a questo punto è ufficiale, tolto ovviamente il posticipo, cioè Inter-Lazio di questa sera. Juventus 41, campione d'inverno Milan 40, Udinese 38, Lazio 33, Inter 32, poi vediamo in quale ordine scavalleranno la serata. Roma 30, Napoli 29, Chievo, Palermo, Genoa 24 punti, Cagliari e Parma 23, Catania, Fiorentina 22, Atalanta, Bologna 20, Siena 19, Cesena 15, Lecce 13, Novara 12. Giorgio, buonasera. Buonasera, dottor Gent. Tifoso juventino, ovviamente sì. Molto soddisfatto. Però volevo spezzare una lancia in favore di Sacchi, perché io almeno tutte le volte che l'ho sentito quest'anno mi è sembrato sempre molto positivo verso la Juventus, soprattutto il gioco della Juventus, forse magari gli ricordava il suo di gioco. Però ieri sera ha detto una cosa che mi ha fatto anche molto riflettere, cioè il fatto che in sostanza forse la Juventus quello che manca è il grande giocatore, un po' come il Milan a Ibrahimovic, avanti per il grande cosa classe. Mi sembra una cosa piuttosto evidente, forse non ci voleva Sacchi per sottolinearlo, alcuni ascoltatori come Federico Alessandri invece continuano a ripetere via SMS una cosa sacrosante, cioè che se invece di sperperare i tanti soldi che sono stati buttati anche nelle ultime due stagioni sul mercato, si fosse andati decisi su un grande giocatore, un leader vero, anche tecnico, forse Juventus avrebbe non uno ma 7 punti di vantaggio, non so se sarebbe così, Federico D'Alessandria scrive questo. Però Giorgio, mi sembra evidente, no, che alla Juventus manchi una superstar di questo tipo. No. Che non si possono fare 10 azioni da gol per fare un gol. Esatto. Ecco, io non credo che così riuscirà ad arrivare fino alla fine della stagione prima. Questo, se la Juventus avesse Ibrahimovic sarebbe la candidata numero uno, perché tutto il resto c'è, mi sembra, no? Al di là di una difesa che ha miracolosamente tenuto la migliore del campionato, e anche in questo... anche questo era incredibile e rimane tuttora incredibile, perché dal punto di vista dell'organico la difesa juventina non è esattamente il massimo della vita, al di là dell'avere portiere straordinario come Buffon, vuol dire che comunque la squadra funziona, che riesce anche a proteggere adeguatamente la difesa. È evidente, se la Juventus al centro d'attacco invece di Madrid sta giocando un campionato strepitoso, avesse Zlatan Ibrahimovic, sarebbe la favorita numero uno anche per questo scudetto. Mario, provincia di Milano, buonasera. Buonasera Carlo, è sempre un piacere. Io volevo spendere finalmente due parole per questo giovane attaccante del Milan, per El Shaarawy. Finalmente che sta giocando, perché da settembre, da quando ha pareggiato contro l'Udinese, mi aspettavo di vederlo in campo un po' di più, perché per quello che si è visto... Ha avuto anche problemi fisici. È quello. Io volevo fare una provocazione. Sarà l'anno di nascita, sarà la cresta, ma io sento Neymar 50 milioni di euro. Ma secondo lei ci sono veramente quei soldi di differenza fra Neymar e El Shaarawy? Perché secondo me quello che si è visto se la giocano. Perché Neymar, lei sicuramente avrà visto molte più partite del campionato brasiliano, e cioè io quello che ho visto di Neymar e quello che ho visto di Shaarawy, secondo me, non sto dicendo che uno è più forte dell'altro, no, chiaro, ma 50 milioni di euro non ci sta, no, 50... un'intera di differenza. Non, guardi, questo non glielo so dire, è evidente che la carriera dei due giocatori mi sembra un confronto molto difficile. Neymar gioca in un campionato molto diverso come quello brasiliano, nel quale ha già segnato una caterva di gol, è un titolare della nazionale brasiliana, è un giocatore estremamente quotato, è un giocatore comunque di grande talento, e Shaarawy è un giocatore che sta provando a sbocciare adesso, no? Utilizzando gli spicchi di giardino che per fortuna Allegri comincia a concedergli. Ha avuto, lo ripetiamo, diversi problemi fisici, so che è stato, si è lavorato anche fisicamente, mi auguro in maniera non così massiccia su Shaarawy in questo periodo. Oggi mi sembra il giocatore l'avanti più brillante del Milan, tolto il solito Ibrahimovic, che è uno che ti porta lo scudetto con la mano se arriva nella tua squadra, il giocatore più decisivo, più determinante del nostro campionato, e sto dicendo una banalità, ma è il giocatore più decisivo e più determinante forse del mondo in qualunque campionato, come peso specifico sulle squadre in cui abita. E Shaarawy oggi ha cambiato la partita di Novara, le ultime tre gare nel derby gli è stato concesso pochissimo tempo da Allegri. Io tutto sommato direi che sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che scrive che si potrebbe dare fiducia, provare a dare fiducia a questo giocatore. In fondo al Milan cerchiamo un sostituto di Cassano, no? Ebbene, il Shaarawy può essere da qui alla fine del campionato come minimo un sostituto di Cassano. Pato andrà prima o poi recuperato, Ibrahimovic è comunque il giocatore che è in grado di fare qualunque cosa, ed è inutile spendere altre parole. Tra l'altro, ripeto la statistica mostruosa, 13 gol nelle ultime 12 partite. Ebbene, forse varrebbe la pena guardarsi in giro sul fronte centrocampisti, visto che Allegri anche oggi ha dovuto fare la conta degli abili arruolati, ed è stata una conta difficile. Il centrocampo del Milan è molto avanti con l'età, è usurato, è ridotto, stante anche l'infortunio a inizio stagione molto grave di Flamini. Insomma, guarderei più a quello. Poi, se invece vogliono aggiungere un'altra stella costosissima alla collezione, con Tevez che ha rifiutato molti soldi al Paris Saint-Germain, che continua a mandare messaggi d'amore al Milan, se vogliono fare così, facciano poi, noi ci ragioneremo sopra. Rispondo a questo SMS con un big a Gero, ad esempio, con 45 milioni, cioè il prezzo pagato totalmente per Krasic, Elia, Motta, Martinez. Si vinceva anche senza merito con Cagliari, Bologna e Roma, quanti punti fa? Sì, però mi sembra un discorso un po' così, un po' un conto della serva difficile da fare, innanzitutto da vedere se con questo scenario ipotetico, se con Agüero Juventus avrebbe vinto quelle partite, certamente avrebbe avuto maggiore talento in attacco. Però guardate, il discorso è anche questo: non penso che la società Juventus possa permettersi non tanto l'acquisto ma l'ingaggio di un giocatore di questo tipo, perché va a distruggere l'equilibrio del monte salari. Un giocatore che quasi nessuno può permettersi, forse nessuno può permettersi in Italia. Difficile che dalle nostre parti possano arrivare, se non al Milan o all'Inter, quando Moratti in vena di cacciare denaro, possono arrivare giocatori che hanno ingaggi di 7, 8, 9 milioni a stagione, quali sono gli ingaggi di Agüero, di Tevez, di questa gente qui. Quindi anche di questo bisogna tenere conto, insomma, sul fronte bianconero, di queste politiche di contratti, di queste politiche di salari, degli equilibri esistenti. Marco da Milano, buonasera. Marco magari dopo. 800 24 00 24. Credo che Tesser stia parlando di quel fallo di mano di Nocerino che ha portato al gol del 2-0 del Milan, azione viziata chiaramente. Sì, sentiamo Tesser con Sky. Visto che è una corsa in salita, ovviamente, quella della vostra permanenza, certo, in Serie A, ma lo sapevate dall'inizio, e noi tifiamo per il vostro essere così outsider e così, insomma, no? La squadra simpatia di questo campionato davvero. Grazie Tesser, grazie davvero, niente, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera. Abbiamo sentito allora, solo i saluti di Tesser. Restiamo su questa partita per chiedere anche un parere a Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Furio. Ciao, buonasera a tutti, eccomi, sono di Novara. Sì. Sei di Novara, hai visto El Shaarawy che ha cambiato questa partita? Sì, decisamente. Come ho visto io alla televisione. Finalmente dopo oltre un anno si è capito che il ruolo di Emmanuel non è né quello di mediano né quello di trequartista, ma sicuramente rende meglio come terzino sinistro, ha meno responsabilità, meno affanni e quindi sicuramente procura meno guai. E invece bene El Shaarawy con Robinho trequartista insieme a Ibrahimovic, hanno disputato un'ottima partita, si è anche sbloccato Ibrahimovic dopo un primo tempo in cui il Novara aveva retto bene sicuramente la forza d'urto rossonera. Un buon Milan, anche se ha bisogno sicuramente di rinforzi in attacco, perché a questo punto fuori Cassano e Pato e soprattutto con Robinho che diventa trequartista in attesa del ritorno di Boateng, ci vorrà una punta in più, perché praticamente manca al fianco di Ibrahimovic. C'è El Shaarawy, potrebbe esserci un Inzaghi part-time, ma serve un attaccante in più. Stiamo una battuta di Mazzarri con Sky, poi torniamo al discorso Milan. Mazzarri. Le parole tue ieri in conferenza stampa, avevi predicato massima attenzione, cattiveria, concentrazione, cinismo. E anche questa volta ci sono stati due errori clamorosi, uno ha portato a una traversa, l'altro al gol del vantaggio del Siena. Stai cercando di capire, stai riuscendo a capire che cosa sta accadendo, soprattutto in fase di non possesso, in fase difensiva, senza gettare la croce proprio sui difensori? Ma che l'ho detto prima, magari abbiamo fatto un errore il primo tempo e il Siena manca poco, andava subito in vantaggio. Non mi ricordo altri tiri in porta o azioni pericolose. Il secondo tempo, alla prima, la palla sembrava andasse fuori, Calaiò era anche caduto, viene il cross e pigliamo il gol in quel modo. Due errori in una partita ci stanno e tutte le volte prendiamo gol e tutte le volte sono partite in salita. Il primo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti e non le abbiamo fatte. E quest'anno ci capita così, a Novara è successo così, è successo a Bergamo, è successo un po' sempre, e quindi rincorrere quando poi si gioca fuori casa contro la squadra di casa che si galvanizza e tutto è sempre difficile. Oggi abbiamo avuto l'ennesima palla gol nel finale di gara quando l'anno scorso riuscivamo a vincerle, e l'occasione di Pande aveva davanti al portiere e non è entrata, e quindi è un'annata così, e cerchiamo di lavorare come abbiamo fatto sempre e basta, andiamo avanti. Questo Mazzarri, io rubo ancora una battuta a Furio Fedele, ma tu parlavi di un attaccante che serve anche per motivi numerici, no? Con l'infortunio di Pato, con Robinho che diventa trequartista, ma vale la pena rompere tutti i porcellini disponibili per Carlitos Tevez? No, assolutamente no, infatti domani dovrebbe concludersi la trattativa per portare Maxi Lopez praticamente a corso zero al Milan, almeno fino al prossimo 30 giugno. Per Tevez Milan aspetterà la fine del mercato, davanti al Milan ci sono il Paris Saint-Germain e l'Inter che sicuramente hanno proposto offerte più concrete, almeno sulla carta, 37 milioni di euro Paris Saint-Germain, 25 milioni di euro con un bonus di 3 milioni di euro l'Inter. Vedremo, il mercato non sembra mai ancora lungo e può sicuramente generare molte sorprese e molte novità, vedremo che cosa succederà, però sembra che in questo momento almeno in arrivo ci sia Maxi Lopez, già domani. Credi che Allegri darà più campo ad El Shaarawy nelle prossime gare? Assolutamente sì, lo merita. Io ero un po' perplesso, magari all'inizio della stagione l'allenatore sembrava addirittura fosse sul piede di partenza in questo mercato, invece adesso ha fisico, oltre che le grandi qualità a lui riconosciute, e soprattutto dimostra di essere molto duttile. Ibrahimovic lo ha apprezzato e questa mi sembra già una promozione sul campo molto molto importante. Grazie Furio, buon lavoro. A voi, buonasera. Grazie a Furio Fedele. Maurizio da Roma, poi Michis da Como. Maurizio. Ah, buonasera dottor Genta. Sera. Senta, io sono d'accordo sulla questione Tevez, sarà un grandissimo giocatore ma non ritengo necessario dover spendere tutti questi soldi per Tevez, piuttosto spenderei per rafforzare altri reparti del Milan. poi due sui pareri. Non so se già l'hai espresso, uno relativo al gol che ha fatto Ibrahimovic, pazzesco, di tacco, e poi sul limite caratteriale di questo grandissimo giocatore che è Ibrahimovic, un fuoriclasse, quando Caracciolo ha fatto il fallo su Mexes ed è andato per l'ennesima volta a fare il vendicatore rischiando a fare il bullo, sì, ha ragione. Prego? No, a fare il bullo, è andato Ibrahimovic al centrocampo a fare insomma il giustiziere, non... Cioè, rischiando un cartellino giallo, grazie. Il più inutile dei cartellini gialli, no, ma è vero, ma questo difetto non glielo leva nessuno, io credo. Quanto al gol di tacco, ma insomma, sì, è vero, bel gesto, ma ne ho visti di più complicati, anche di più belli in questa domenica, per la verità, perché credo sia imbattibile dal punto di vista estetico il gol di Natale, il 2-0 dell'Udinese, su cross da sinistra di Armero. A proposito, io fossi un presidente, per fortuna non lo sono, presidente di un grande club, due giocatori come Isla e Armero non me li lascerei mai sfuggire. Oggi Armero ha fatto l'inferno su entrambe le fasce, perché il primo gol che ha segnato su assist, guarda caso, di Isla è venuto dallo sviluppo di un'azione sulla destra, con un tocco diagonale beffardo di Armero, dalla fascia sinistra invece ha servito a Di Natale il cross per la volée del capitano bianconero. Quindi direi che due giocatori così, e aggiungo anche Asamoah che è in Coppa d'Africa, quindi manca tantissimo in questo momento all'Udinese, ecco, questi giocatori non me li lascerei scappare. Diceva l'altro nostro ascoltatore, beh sì, è chiaro che al Milan andrebbero spesi dei soldi per rinforzare altri reparti che non siano quello offensivo. Tevez, un grandissimo giocatore, sì, Tevez è un grande giocatore, continuo a pensare un giocatore anche abbastanza sopravvalutato, però per il peso specifico che ha avuto nelle poche in realtà grandi squadre che ha attraversato, perché non mi sembra che al Manchester United sia riuscito comunque a diventare un grande leader, un grande totem, a maggior ragione non lo è diventato sull'altra sponda di Manchester, dove non vedono l'ora di liberarsene, ovviamente. Michis da Como, buonasera. Buonasera a lei. Sì, sono di Como, ma tifo Novara. Esco adesso dallo stadio e vorrei lanciare una piccola provocazione, in senso che Milan, come ha detto lei, effettivamente è la squadra più forte, ritengo più forte della Juventus. Sì. Ma ritengo anche che, purtroppo, ahimè, mi fa da fastidio vedere il Novara in ultimo in classifica, ma mi dà fastidio, come stavo dicendo, vedere anche vincere le partite con errori arbitrali grossolani. Io sono sempre stato uno di quelle persone che dice che l'arbitro può sbagliare. Ne sono ancora convinto, perché entrare in campo con 22 giocatori, senta, fare l'arbitro è difficile. Senta, lei si sta riferendo, no, pertanto per chiarire, all'episodio di Nocerino? Esatto, mi domando io come fanno a vederlo 17.000 persone, sì, allo stadio e non l'arbitro. È questo che mi rimane, perché sull'1-0 allora, la partita poteva cambiare benissimo. Ma guardi, le dico, secondo me era un gol da annullare, perché sono d'accordo, il fallo di mano di Nocerino mi è sembrato piuttosto evidente, quindi era un gol da annullare. Sul fatto che il Milan abbia vinto perché De Marco non ha visto quel tocco di mano di Nocerino, beh, non sono d'accordo, perché il Milan onestamente ha stradominato questa partita, non è riuscito a passare nel primo tempo, poi Allegri ha sistemato la squadra nella ripresa, era già sull'1-0, poi è arrivato anche il 3-0. Direi che in linea di massima il Milan avrebbe vinto, ovviamente il Milan le riprove, però così a sensazione avrebbe vinto ugualmente questa gara, anche se De Marco avesse fatto il suo fischiando dopo quel tocco di mano di Nocerino, perché non possiamo dire che il Milan oggi abbia vinto perché De Marco non ha visto il fallo di mano di Nocerino. In tutta onestà, con tutto il bene che vi voglio. E io saluto con piacere Pierluigi Pardo da Mediaset. Ciao Pierluigi. Ciao, come va? Molto bene. Uno dei temi di questo weekend, naturalmente, tutti in piedi per Francesco Totti, che di cui ieri hai raccontato il record, ma anche tutto sommato per la Roma, che in una partita diventata peraltro subito abbastanza finta, con quel 3-0 pronti via, ebbene la Roma che riesce ad accendere con sempre maggiore continuità qualche lampo di bellezza. Assolutamente, la Roma è in crescita assoluta, evidente, ad oggi sta facendo quello che doveva fare all'inizio della stagione, oggi è sesta in classifica ed è diciamo l'obiettivo medio di una stagione che doveva essere quella di transizione, però la sensazione è che la squadra stia crescendo, che ci sia un netto miglioramento e che quindi insomma da qui in avanti possano essere scalate delle posizioni, tra l'altro seguendo una strada che è quella del gioco che insomma se si riesce a fare evidentemente ha un significato e un valore ancora esteticamente superiore. Totti su Totti sono finiti gli aggettivi, insomma io credo che bisogna, al netto di un po' di tottismo che c'è ovviamente in chiunque è nato a Roma, in chiunque abbia il cuore giallorosso che ha portato certe volte magari anche a delle esagerazioni, stiamo parlando di un fenomeno assoluto, sì. Un giocatore incredibile che avrebbe potuto vincere sicuramente molto di più se avesse fatto altre scelte in carriera, ma che insomma ha consacrato se stesso a un'idea di fedeltà e di identità per questa maglia, quindi insomma è l'ennesimo passo avanti. Secondo me Totti sta dimostrando molto in questa stagione, che non è certo per lui la più fortunata dal punto di vista tecnico e dal punto di vista realizzativo, sta dimostrando che insomma qualche metro più dietro, fidandosi di Luis Enrique, può continuare a fare molto, a dare molto, e forse si può anche allungare ulteriormente la carriera. È normale che non abbia più lo stesso, è normale come direbbe lui, no? È normale, che, normale che... è normale che, come direbbe lui, che non abbia più la stessa velocità, la stessa frazione, che una frazione di secondo da prima punta rispetto al passato l'abbia persa, ma può diventare un leader giocando 30 metri più dietro, può rimanere un leader, e secondo me non è casuale che da quando lui è rientrato la Roma si sia ritrovata e non abbia più perso una partita. Certo, Pierluigi, se quello di Totti è stato un errore, a parer mio sì, a un certo punto della sua carriera, cioè quello di legarsi all'idea, di legarsi alla bandiera, fossi in De Rossi non commetterei lo stesso peccato. Ma io credo che però sia un'altra Roma questa che sta nascendo, insomma io credo che se De Rossi veramente firmerà, come sembra adesso abbastanza probabile, lo farà anche perché in questi mesi si è divertito moltissimo e perché questa Roma dà la sensazione di poter diventare nei prossimi anni qualcosa di veramente molto importante. Ora è ovvio che bisogna darci molto piano e non bisogna lasciarsi condizionare dalle 5 vittorie consecutive o magari dal 5-1 di una partita troppo facile come quella di ieri, però guardiamo le date di nascita dei talenti della Roma di oggi, troveremo dei 92 come la Mela, dei 90 come Pjanic, dei giocatori che sono di grandissima prospettiva. Diamo un'occhiata alla cantera e scopriamo che Viviani, che ha fatto per ora una sola partita da titolare, ma insomma sta diventando un punto di riferimento, lo è già nella primavera. Caprari, che adesso viene prestato al Pescara, è un giocatore molto molto interessante. Insomma, la mia sensazione. E poi c'è quella coppia di dirigenti Sabatini-Baldini che secondo me è una delle migliori che c'è in giro per l'Italia. Quindi io credo che De Rossi, se deciderà di legarsi, si legherà a un progetto che certo oggi non può vincere, ma fra 2-3 anni chissà. L'ultima cosa, Pierluigi, in un ambiente che, come quello del calcio italiano, che non conosce mezze misure, quello romano non ne parliamo, Luis Enrique è santo subito, altro che rinnovo del contratto. Però vedi la grande forza, e Baldini poi ci ha giocato raccontando questa cosa proprio in un momento come questo, però è vera, la notizia è vera, cioè Baldini ha offerto la riconferma, comunque una sostanziale dimostrazione di fiducia a Luis Enrique nel momento più difficile. Questo è il tipo di atteggiamento che tutti i dirigenti dovrebbero avere, è un lusso per Luis Enrique aver trovato una società che lo ha difeso in quel momento così difficile. Io ricordo a tutti che Ferguson ha vinto le prime cose dopo 3 anni, quindi un po' di pazienza... aiuta, non c'è dubbio, non c'è discussione. Poi Luis Enrique insomma ha delle idee molto molto chiare, molto moderne, e quindi poi vedremo se sarà veramente un grande allenatore. Secondo me degli errori sicuramente della prima parte della stagione li ha fatti, anche di mancata conoscenza del calcio italiano e del materiale umano che aveva a disposizione, però che questo sia un allenatore con delle idee, insomma, gli ha fatti i complimenti Sacchi, ecco, cioè, capisci che Sacchi ieri ha raccontato nel post partita che anche lui si potrebbe trovare degli spunti per aggiornarsi guardando il lavoro di Luis Enrique, per cui insomma è un bel attestato. Beh, ti ricordi Arrigo dopo l'Espagnol, all'inizio della stagione che aprì quel ciclo, era pesantemente discussione, arrivò Silvio Berlusconi dicendo no, rimane qui perché lo dico io. Grazie Pierluigi, come sempre, ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao Pierluigi Pardo, Armando da Pesaro, Luca da Milano, 800 24 00 24, numero verde. Armando, buonasera. Sì, buonasera. Siamo dalla provincia di Pesaro, sono un tifoso del Bologna, io l'ascolto sempre. Sì. Niente, io volevo parlare riguardo più che del campionato, che è una corsa a due, si vede benissimo, anche se l'Udinese è lì, però penso che sarà una corsa a due. Quindi all'Inter non ci crede, come invece a differenza di qualche ascoltatore. Bene, ma dovrà comprare qualcun altro, perché sennò sarà difficile con questi qui che riesca. Ha fatto un bel ritorno, però insomma... tra difesa che arrivi a quelle due davanti. Comunque io volevo parlare un attimo solo di una considerazione sul fatto che, come ha detto quello per il tifoso del Novara prima, io vedo che molti tifosi di squadre piccole o medio piccole telefonano poco, voglio dire, no? Come che siano un po' rassegnati alla superiorità delle squadre grosse, capito? Voglio dire, fanno male, sempre, fanno male. Garantini, capito? Sento che chiamano sempre quelle delle squadre più importanti, insomma. Sì, no? Ma è anche una questione di numeri, Armando, ecco, banalmente. Il fatto che i numeri si fanno con che cosa? Con le vittorie. Le vittorie adesso, negli ultimi anni, le fanno perché hanno più disponibilità. Lei prima diceva infatti dell'Udinese, l'Udinese adesso ha altri tre giocatori buoni, no? Arriva la grande squadra che ha più disponibilità e glieli porta via perché logicamente gli danno più ingaggio, gli danno più tutto, e l'Udinese che sarebbe, secondo me, se non vendeva i giocatori migliori perché li ha dovuti vendere per il bilancio, era una squadra pronta per vincere il campionato come però, è successo. Però guardi Armando, l'Udinese lo fa per una strategia precisa, Pozzo innanzitutto è uno che fissa un prezzo e da quello non si muove, lei sa che ci sono molti casi di giocatori che non, alla fine non sono andati via da Udine perché non arrivavano offerte all'altezza, quindi Pozzo lo fa, ha questa filosofia, questa strategia aziendale molto precisa per cui costruisce le squadre con enorme competenza, non soltanto sua ma della rete fantastica che l'Udinese ha a disposizione sull'intero pianeta, monitorando giocatori e campionati. E quindi andando a prendere al giusto prezzo giocatori futuribili, dà spazio a questi giocatori e poi monetizza questo tipo di lavoro. È un modus vivendi molto chiaro, molto preciso, non trova? Mai di più adesso, mai. Ci dobbiamo rassegnare a fare gli sparring partner noi. Ci vediamo, grazie. Grazie, ci vediamo, speriamo, ci sentiamo certamente. 800 24 00 24, Luca, Milano, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì, bene. Buonasera, niente, volevo solamente chiamare in risposta all'amico radioascoltatore di Como che si è detto tifoso del Novara. Io sono tifoso milanista, abbonato, oggi ero all'estero, mi trovavo in Slovenia, ho guardato la partita in televisione e una volta visto il secondo gol ho detto alle persone intorno a me, tutte slovene, vedrete che adesso in Italia si scatena la polemica, nonostante una partita mi consenta combinata. Ma Sava sicuro. Voilà. Voilà. E quindi mi ero ripromesso, adesso i miei amici sloveni, la mia ragazza in ascolto dalla Slovenia, ho detto se passo il confine e sento qualcuno che chiama, devo assolutamente chiamare Radio 24 e dire la mia. Scusatemi, telefonata canale. Ma scusatemi di cosa, ha ragione Luca. No, ma ha ragione, ma al di là del fatto non si tratta di parteggiare per Davide o per Golia, onestamente non, è impossibile dire, è una stupidaggine dire che oggi il Milan abbia vinto perché De Marco non ha visto quel fallo di mano di Nocerino. Il Milan ha vinto perché è dannatamente più forte del Novara e quando ha cambiato passo nella ripresa ha costretto il Novara negli ultimi 20 metri e lì lo ha lasciato fino a quando è passato con Ibrahimovic e poi con Robinho e poi di nuovo con Ibrahimovic. Detto che De Marco ha fatto un errore, che quel gol andava annullato, la partita è finita 0-3, poteva essere 0-2, comunque credo che il risultato, il segno in schedina sia specchio fedelissimo di quanto si è visto oggi sul sintetico di Novara. Ecco Fabio Cantadori in regia al posto di Valeria Bernardi, Giorgio De Luca sempre in redazione, questa seconda ora insieme fino alle 19 per continuare a parlare di questa giornata di campionato che ha incoronato la Juventus campione d'inverno ieri e che oggi ha detto che Milan e Udinese continuano a correre. Vediamo l'Inter di questa sera. 800 24 00 24, e poi vi faccio anche risentire quanto ha detto Ranieri ieri per capire se siete d'accordo o meno sulle parole, anche dure se volete, l'allenatore dell'Inter che ha giustamente difeso il suo lavoro, però non posso, io non riesco a dire che l'Inter gioca un calcio di alto livello estetico e qualitativo. 800 24 00 24. Intanto sul fronte straniero il Manchester United sta provando a rispondere al Manchester City in questo doppio confronto tra Manchester e Londra. Il City ha battuto 3-2 il Tottenham, curiosa così anche la scansione temporale dei gol. Nel primo tempo, undicesimo e quattordicesimo, i due gol del Manchester City con Nasri e Lescott, sempre nell'arco di 5 minuti nella ripresa, 15° e 20° Defoe e Bale per il 2-2, e al 50°, quindi 95° di questa partita, rigore trasformato da Mario Balotelli. Lo United invece, partita in corso, sta vincendo sul campo dell'Arsenal, il gol anche in questo caso nel tempo di recupero del primo tempo di Valencia al 46°. Continuo a parlare con gli ascoltatori con grande piacere. 800 24 00 24. Bruno D'Ancona, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Volevo parlare della Juventus prima. Prego. Conte sta facendo un gran lavoro con la Juventus. Sì. Però vedo che la squadra ha una grossa difficoltà a sfruttare tutte le occasioni che creano, e continua a non comprare una punta che sia... Che la butti dentro. Beh, insomma, mi sembra che Matri stia buttato dentro con grande continuità, che Marchisio abbia fatto una prima parte di stagione da superstar. Se poi vogliamo dire che la Juventus non ha una stellona davanti, su questo siamo abbastanza d'accordo. Le stellone costano un sacco di soldi, di cartellino e di ingaggio soprattutto, anche se di solito Federico D'Alessandro mi fa i conti, a Mauri 3,8, a Iaquinta 2,5, Toni 2, mettendo insieme questi soldi sprecati si paga l'ingaggio di uno molto forte, però è anche vero che così facendo va ad alterare l'intera politica degli ingaggi, quindi molte altre cose devi poi, credo, andare a rivedere sul fronte contrattuale. Massimo D'Alecco. Pronto? Pronto. Mi abbassa la radio per favore, se no sento ritorno in cuffia e non va bene, grazie. Niente, volevo fare una domanda sulla difesa dell'Inter. Sì. A inizio anno non giocava Spalla, giocava Ranocchia, e si diceva che la colpa era del centrocampo. Il sottoscritto invece ritiene che la colpa sia stata soprattutto di Ranocchia, che nel 90% delle occasioni è responsabile del gol, perché non conosce le posizioni di un centrale difensivo. Volevo chiedere cosa pensava di questo e se pensava che di Thiago Motta, la miglior stagione di Thiago Motta all'Inter è quella di quest'anno. Grazie e buonasera. A lei, Massimo. Forse sì, quanto alla seconda parte della domanda, credo che sia la miglior stagione di Thiago Motta all'Inter questa, in cui è forse anche in partenza, perché sappiamo dell'offerta del Paris Saint-Germain, che a me ricorda moltissimo la vicenda del Paris Saint-Germain, e qui faccio una piccola divagazione, mi ricorda moltissimo quelle del primo Chelsea di Abramovic, mi ricorda moltissimo quello del primo Manchester City degli Sheikhi, cioè sta ricevendo un sacco di porte sul naso da parte di superstar del calcio internazionale, sta cercando un apripista, cioè l'uomo, il fuoriclasse, il giocatore importante che faccia capire agli altri come questo sia un progetto destinato a grandi orizzonti. Ricordate che il City cercò Kakà, ricordate la difficoltà che il Chelsea ebbe all'inizio nell'ottenere il sì dai grandi giocatori contattati, nonostante ci fossero disponibilità economiche pressoché illimitate. È chiaro che Thiago Motta non è una superstar del calcio mondiale, però è un giocatore che sta, e di questo siamo anche contenti in chiave azzurra, che sta giocando una grande stagione all'Inter. Detto questo, l'ascoltatore mi sembra un pochino ingeneroso nei confronti di Ranocchia, che credo sia in prospettiva comunque un eccellente difensore. Non, se vogliamo dire che non è ancora Walter Samuel, beh, possiamo dirlo tranquillamente. Samuel è uno di quei pochi giocatori in grado di elevare da solo il rendimento dei compagni di squadra, quindi Samuel, così come Nesta, così come Thiago Silva, così come Vidic forse, così come pochi altri difensori centrali al mondo, è quello in grado di sistemarti al reparto da solo e di sopportare addirittura un Lucio che è giocatore a mio parere molto sopravvalutato, e che quando manca Samuel evidenzia tutti i suoi limiti. Detto questo, e per inciso, io prendo 10 volte Ranocchia al posto del brasiliano e lo faccio giocare magari in coppia con Samuel, poi ne parliamo. Gianni da Genova, buonasera. Buonasera a voi. Io volevo esprimere la mia idea, che io sono milanista e vado un po' controcorrente, perché non ritengo il Milan possa vincere lo scudetto, soprattutto perché abbiamo perso nettamente contro Napoli, Juve e Inter. Non si vede un centrocampo in grado, a parte Nocerino, di far fronte ai centrocampi che incontriamo di solito. Sì che abbiamo vinto a Novara, ma con la squadra più scarsa del campionato. E poi vorrei dire in ultimo, ha vinto non solo con Novara però, Gianni, è vero, sì. Lei ha ragione nel sottolineare, ma è cronaca che il Milan abbia perso tutti i grandi confronti diretti, perso anche nettamente i grandi confronti diretti, ultimo quello di una settimana fa, però non è che abbia vinto soltanto a Novara. Questo voglio e dire. Poi in ultimo vorrei dire, invece di andare a spendere tutti questi soldi su Tevez, perché non spenderli magari meno, però cercare di prendere magari Fernando Torres, che è un giocatore sottovalutato, ma secondo me più forte. Guardi, non mi sembra che le ultime stagioni di Fernando Torres siano state particolarmente brillanti, è un giocatore molto quotato, molto costoso, dal punto di vista, torno a ripeterlo, anche soprattutto dell'ingaggio, un giocatore che a me piace molto, però è reduce da una serie di stagioni da mani nei capelli, quindi boh, non lo so, può essere un'idea Fernando Torres al posto di Tevez, ma non è questo il punto, perché il punto è quello che lei ha sottolineato, e cioè che il Milan ha un centrocampo che deve essere, non so se ora o in sede con più calma di mercato estivo, deve essere ricostruito. I nomi dei senatori sono, è inutile farli perché l'elenco lo conoscete anche voi. È vero Nocerino, è vero anche Aquilani che adesso è ai box come tanti altri rossoneri. Questi sono due giocatori certamente futuribili, certamente faranno parte del Milan del futuro. Poi bisogna prenderne altri, un nome su tutti, quello di Montolivo, che finirà in rossonero, ma questo è un segreto di Pulcinella. C'è chi scrive: si fanno paragoni tra la Juve targata Capello e quella Conte, se giocassero contro la Juve del 2006 vincerebbe 3-0. Condivido, sono però paragoni che non... così, sono giusto un giochetto che si può fare. È chiaro che la Juventus del 2006 aveva giocatori un po' diversi, un po' più vicini al cuore del calcio mondiale, mi viene in mente Zidane su tutti, vabbè, ma questa è un'altra storia. Aveva giocatori diversi rispetto a quelli della Juventus di Conte, quindi un paragone che trovo un po' ingeneroso. Alessandro da Taranto, buonasera. Dunque, buonasera. Salve, io sono tifoso della Lazio, pur essendo di Taranto. Chiamo perché mi sembra che la Lazio sia sempre un pochino bistrattata dalle emittenti radiofoniche o comunque dai programmi televisivi sportivi. Non credo che la Lazio possa vincere lo scudetto assolutamente, però alla fine è lì. Allora sì. Non capisco perché anche questa sera si parla delle ambizioni dell'Inter, ma non si parla delle ambizioni della Lazio. Quali possono essere le ambizioni della Lazio, Alessandro? Beh, comunque fare un campionato di vertice, dando fastidio all'Udinese sicuramente, all'Inter questa sera, al Milan magari, e tentare di portare a casa una Coppa, un'Europa League, che magari sarebbe un successone. Questo è realistico. La Lazio, volendo, potrebbe anche fare un pensiero a quel terzo posto al quale è più vicina rispetto all'Inter, che almeno fino a stasera alle 22:45 giù di lì. No, ma la Lazio, guardi, sta giocando un'eccellente stagione, l'ho detto molte volte, è una squadra anche che ha qualità, mi viene in mente un giocatore come Diaz a proposito di grandi difensori centrali, sono certo che sia uno dei migliori del nostro campionato. Ha un mostro come Klose, è evidente anche dei difetti che mi portano a dire che insomma Raya stia facendo un lavoro eccellente e ancora non compiuto, perché credo che la Lazio possa stare lì fino alla fine. Angolo dei tifosi, anzi delle tifose, saluto e ringrazio Alessia Ventura. Ciao Alessia. Ciao, buonasera. Buonasera a lei. Senti, ti è piaciuto il Milan di oggi a Novara? Ti è piaciuto El Shaarawy? Beh, devo dire che insomma questo giovane ragazzo se la sta andando alla grande, ecco, ha dimostrato di avere le carte buone per per continuare a giocare nel Milan, e Allegri insomma continua a dargli spazio, quindi sono molto contenta per lui. Devo dire che il Milan, a parte all'inizio che ha avuto un sacco di occasioni, se l'è giocata meglio nel secondo tempo, ovviamente, quindi una bella doppietta di Ibra, e mi ha fatto anche un po' sorridere il secondo gol di Ibra, perché questo colpo di tacco che non si è neanche reso conto lui di averlo fatto. No, distinto. E d'altra parte, grosso com'è, spalle alla porta, non poteva fare altro. Infatti, non si è rimasto stupito anche lui quasi, quindi insomma è stata alla fine una bella partita. È ovvio che il Novara insomma cercava di riprendersi una piccola rivincita, però è andata così. Senti, ma a tutti i milanisti che chiedono un nuovo attaccante, tu cosa rispondi? Bella domanda. Beh, insomma, lì sono decisioni che deve prendere la società, e Allegri insomma ha diversi attaccanti. È vero che adesso ci sono tantissimi infortunati, quindi non saprei cosa risponderti. Ma... allora facciamo così. Allora facciamo sì, ha un po' sfracicato, scombussolato un po' tutto, diciamo, scombussolato, che sei una signora, sei molto più elegante di me. Allora, visto che è così, io allora voglio fare un gioco con te, qualche domandina secca, e poi sentiamo gli ascoltatori. Quizzone che torna da Alessia Ventura, lo devo fare. Allora, Alessia, da 1 a 10 quanto è difficile tenere buono Pippo in questo momento? Non c'è, non so, 1000 è possibile? 1000 è possibile. Tu ci andresti a Parigi a vivere? Beh, a me Parigi piace molto, però io ormai non c'entro più niente nella vita di Filippo, quindi... Senti, ti è più simpatico Pato o Ibrahimovic? Ma... devo dire che sono tutti e due bravi ragazzi. Ibra è molto simpatico, nonostante questo aspetto un po' duro, però sì, è molto simpatico. È simpatico anche a me. Hai mai pensato di affidare la tua procura a Mino Raiola? Chi che le scrive questo? Io, e chi vuoi che le scriva? Complimenti. È colpa mia, è tutta colpa mia. Tua. È tutta colpa mia. Punterò il dito su di te. Senti la prossima. Quando vedremo Donia vuoi scommettere? La vedo grigissima anch'io, anche se è un programma molto bello, e complimenti li faccio io. L'ho visto. L'ultima cosa, quanto era difficile sopportare Giuseppe Cruciani come vicino di posto l'anno scorso a Controcampo? Il mio amico Giuseppe Cruciani, il mio compagno di banco invece quella radio. Ecco, ma sai che invece Cruciani, che anche lui ha questo aspetto un po' da duro, severo, in realtà è buono dentro lui, quindi alla fine io mi sono trovata molto bene. Sì, ti presento qualche ascoltatore della Zanzara che la pensa diversamente. No, dai Cruciani, insomma, anzi lo saluto perché è dall'anno scorso che non lo vedo, quindi insomma salutalo anche tu da parte. Ci penso io, nessun problema. Bravo. Un'ultima cosa, chi vince lo scudetto? Questo è facile però, è anche banale. Vabbè, insomma, allora, siamo campioni d'inverno, di solito chi è campione d'inverno è anche campione a maggio, quindi ho Juventus. La mia Juve, dai. La Juventus. Certo. Grazie Alessia Ventura. Ma grazie a voi, un bacione a tutti, grazie. È stato molto divertente questo gioco con Alessia Ventura, è stato molto divertente parlare con lei, e poi insomma a me fa sempre piacere parlare con donne così belle, posso farlo solo a distanza. 800 24 00 24, ma mi fa molto piacere anche parlare con voi ascoltatori. Intanto sto leggendo molti dei vostri messaggi, come questo: se il Milan non dovesse vincere lo scudetto a vantaggio della Juve, il simbolo della disfatta da una parte, della vittoria dall'altra, sarebbe Andrea Pirlo. Sì, fino a un certo punto, però, perché questo è vero indubbiamente, però Pirlo non faceva più parte del progetto Milan. È una di quelle, diciamo, crociate, di quelle battaglie, di quelle idee che alla fine Allegri è riuscito a far passare, e io non ci avrei scommesso una lira, l'addio di Ronaldinho, è riuscito con grande intelligenza anche, oltre che con tutte le ragioni del mondo, ad emarginare Ronaldinho, a far capire a al proprietario che Ronaldinho tutto sommato non era quello che poteva far vincere granché al Milan, poi insomma ha capito, ha immaginato che Pirlo non potesse più essere il cuore della sua squadra, perché gli servivano giocatori diversi, perché si è inventato quella formula dei tre mediani per altre ragioni, e Pirlo è andato a strappare un ultimo contratto alla Juventus, e non mi sorprende il fatto che stia giocando a questi livelli. A proposito, l'assist di ieri sera è stato qualcosa di straordinario. È anche vero che per circostanze Pirlo non credo sia più giocatore in grado di reggere a questi livelli ogni tre giorni. Come sapete, la Juventus non fa le coppe, anche qui Conte è stato molto bravo a monetizzare questo, tra molte virgolette, vantaggio. Alessandro da Treviso, buonasera. Sì, buonasera. De fatto, i complimenti per il fatto che non parlate di arbitri. Per scelta non parlate, io sono un arbitro, sì. Ho appena arbitrato una partita di seconda categoria. E vi assicuro che 30 anni di processo di Biscardi ci hanno penalizzato a livello dilettantistico in una maniera sì. Paurosa. Ma sa, sono un argomento. Ma no, ma non è una questione di scelte. Guardi, a me il fronte arbitrale, per la verità, interessa abbastanza poco, no? Quindi. Giustamente, come è giusto che sia. No, ma è una questione di gusti personali. Poi magari farei molti più ascoltatori mettendomi a urlare contro questo o quell'altro. L'unica cosa che dico è che, ad esempio, oggi si parla di De Marco e di questo tocco sì. di mani, eccetera, certo. eccetera. Non venitemi a dire che il Milan oggi ha vinto perché De Marco ha fatto vincere il Milan. Infatti, perché è questo il discorso. È poi questo che io faccio fatica a sopportare. Cioè, no, ma l'errore ci sta, poi la storia recente ci insegna che si può anche pensare male senza fare peccato. Esatto. Questo è indubbiamente vero, caro Alessandro. Il problema per noi è questo. Non me ne rendo conto. La seconda cosa è sul Milan. Sì. Emanuelson ha dimostrato sicuramente che non è un trequartista, non è in grado di giocare ad alti livelli in quella infatti posizione. Mi sorprende che Allegri abbia ancora bisogno di prove in questo senso, sì, no? Esattamente, Robinho sulla tre quarti sicuramente può è un'altra fare cosa. Qualcosa, beh, ma è un giocatore può fare qualcosa di più. Io che andare ad acquistare Tevez, per esempio, che potrebbe magari scombussolare qualche equilibrio, Zacché Pato resterà fuori un mese, magari speriamo sia un mese e basta. Io darei qualche possibilità a Shaarawy, che credo se la stia meritando. A questo punto anche qui sarei sorpreso se Allegri non lo facesse. Poi darei qualche gettone in più per Pippo Inzaghi, che sicuramente è più difficile. Per la storia che ha, insomma. Sì, certamente. Però la vedo più difficile anche perché io credo che con a rapporti si sia ai minimi termini, no, in questo senso. E poi va anche detto che, insomma, l'impiego di Inzaghi ormai può essere solo emergenziale. E non può essere nemmeno a breve termine, cioè per 2, 3, 4, 5 partite, forse compagno di squadra di reparto gradito, ma per questioni tecniche a uno come Ibrahimovic, che vuole il giocatore che gli danza intorno e con il quale scambiare in velocità, cosa che era Cassano, cosa che è certamente Robinho, cosa che è un po' meno Pato. E questo mi sorprende perché da un punto di vista tecnico faccio fatica a immaginare una coppia più letale di Pato e Ibrahimovic, però al gran capo questo il brasilianino non piace e dunque siamo lì a parlare di Tevez e di cessioni al Paris Saint-Germain. Quello che dico io è che da un punto di vista strettamente calcistico è al netto dei rapporti personali tra il gran capo Tribù e i suoi sudditi. Quello che dico io è che da un punto di vista strettamente calcistico io mai e poi mai scambierei Pato con Tevez. Non so come la pensate voi, se volete ditemelo. Arsenal 0, Manchester United 1, 70esimo di questa partita di Premier, dopo che il City, lo ricordo, ha battuto in questo confronto a distanza tra le... Attenzione, perché segna Van Persie ed è 1-1 tra Arsenal e Manchester United, grande diagonale di Van Persie. E dunque l'Arsenal pareggia i conti dopo che Valencia aveva segnato al 46esimo del primo tempo. Matteo da Modena, buonasera. Ciao. Ciao. Io volevo dire un paio di cose sul Milan. Sì, prego. Secondo me Allegri dovrebbe dare un po' meno possibilità a Shaarawy e no a Emanuelson. Sì. Perché secondo me Emanuelson non ha le caratteristiche da Milan, cioè nel senso deve ancora maturare, preferisco un Shaarawy che ti fa vincere le partite a un Emanuelson che invece ti fa incartare, esatto, la squadra. Esatto, beh, esatto. Sì, sì, sì. Invece no, volevo dire un'altra cosa su Pato, che secondo me Pato è da quanto... Il problema non è il muscolare che ogni volta fa male, però secondo me è da quando c'è stato Milan-Fiorentina del 2009, quando la caviglia mi si piegò di tipo un bel po', sì, e da lì ha paura di farsi male sempre. Beh, no, per in quello effetti, è uscito però, anche Matteo, con Novara. Beh, con Novara... infortunio muscolare fuori un mese, quindi non è questione di paura, è questione di problemi fisici seri. C'è anche chi scrive: se avessero venduto Pato, adesso le rogne di un calciatore difettoso ce l'avrebbero Leonardo Ancelotti. Secondo me Pato non è un calciatore difettoso, ma è un grandissimo attaccante le cui potenzialità abbiamo soltanto intuito fin qui, nonostante abbia già segnato una montagna di gol a livelli da record per uno della sua età, un calcio difficile come quello italiano, in cui arrivò, lo ricordiamo, da ragazzino a 17 anni con un fisico molto diverso rispetto a quello di adesso, è cresciuto molto in altezza, si è arrobustito in maniera anche eccessiva secondo me. Non sono così convinto che la crescita atletica di Pato sia stata seguita nella maniera migliore, cioè non mi arrendo all'evidenza di un calciatore così fragile che al primo anno, con una struttura molto diversa, al primo anno in Italia non si faceva male neanche se gli sparavano. Adesso ha problemi fisici seri su cui varrebbe la pena intervenire in maniera strutturale. Ho l'impressione di un giocatore che abbia un motore troppo potente per il telaio che possiede. È evidente che non è possibile una sequenza di infortuni ossessiva di questo tipo. Alessandro da Grosseto, buonasera. Ah, buonasera caro Genta. Buonasera a lei. Se mi permette però un paio di tiratine d'orecchie. Anche tre, per quanto riguarda... No, solo due. Per quanto riguarda la Roma, vabbè, la prima così, pronte via, 8 minuti, 3 gol, li fa la Roma, è una partita finta, li faceva finta. La Juve, la Roma. No, ma finta, non finta nel senso che è una partita finita, se preferisce dico finita. Ah, sì. Questo è il senso, non finta per chissà quali motivi, però lei ammetterà che se dopo 9 minuti vinco 3-0 la partita è in ghiaccio. Però si sarebbe parlato di poderosa macchina da gol, fondo arriva... È la quinta vittoria consecutiva, sì, a parte la Roma il contagio di Catania. Alessandro, però la Roma non è una poderosa macchina da gol, è una squadra che gioca un calcio estremamente interessante, che però ha delle difficoltà a concludere. Questa era una difficoltà strutturale all'inizio, che adesso sta provando a risolvere, nonostante problemi di infortuni che anche alla Roma esistono, su tutti quello di Osvaldo, come lei ben sa. Che comunque, insomma, sembra che siamo riusciti a sopperire in queste ultime due o tre partite. In via d'emergenza. L'altra cosa, no, però a parte questo, no, la chiamiamo per il discorso del contratto di De Rossi. Sì. Ora, è già dalla scorsa domenica, anche oggi l'ha ripetuto, dice secondo me De Rossi non deve commettere l'errore di restare, di restare a Roma, di firmare il contratto. Però dico, la Roma adesso mi sembra che ha un progetto che sta prendendo corpo, sì. Per esempio insomma anche gli acquisti di Pjanic, Gago, Lamela, Borini che l'ha riscattata adesso in settimana, sì. Stekele. Sì, però quindi... Alessandro, io le chiedo questo, poi se De Rossi rimane alla Roma e soprattutto nel calcio italiano io sono strafelice, se lei volesse vincere, avesse 28 anni e volesse vincere subito, resterebbe alla Roma o andrebbe al Manchester City, al Manchester United o al Real Madrid? No, gli almanacchi sotto mano. Però allora, negli ultimi 5 anni a parte il mondiale. De Rossi con la Roma ha vinto due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, è arrivato due volte secondo proprio a mezz'ora dallo scudetto. Sì, però... Se avesse giocato nel Real Madrid in questi ultimi 5 anni, cosa avrebbe vinto in più? Il Real Madrid, secondo me quest'anno vincerà la Liga, è seriamente indiziato anche per la vittoria finale di Champions League, nonostante questa idiosincrasia nei confronti del Barcellona, e comunque è una squadra che corre per la Champions League, è una squadra che ammetterà corre per vincere la Champions League con fondate ragioni, no? Quindi lei non crede dal prossimo anno in poi in questo progetto della Roma? No, ma io ci credo anche, solo che non credo che la Roma l'anno prossimo possa correre per vincere la Champions League, anche perché non so se riuscirà ad entrarci in questa stagione. Certamente è un progetto molto interessante, è un progetto però a medio termine, mi pare. Quello che dico io è che un giocatore di quell'età che ha ancora un grande contratto, una grande possibilità, una grande cartuccia da sparare, se decidesse di andare a giocare in un club già competitivo da subito a livello internazionale, beh, sarebbe una scelta professionale da rispettare, almeno secondo me, non dico che debba farlo. Ma non la penso, guardi Alessandro, non sono solo io che non sono tifoso della Roma a pensarla così. Io voglio farle sentire, a lei e a tutti i romanisti, anche cosa ha detto, ad esempio, Antonello Venditti, che in settimana è stato ospite proprio del succitato Giuseppe Cruciani. Deve fare quello che vuole. Può fare quello che vuole. Sì, assolutamente. Anche se andasse via? Se lo metto, vuol dire che è il frutto di una scelta. Non sarebbe coraggiosa. Un tradimento? No, è una scelta coraggiosa, secondo me. Sarebbe una scelta coraggiosa, sì, andare via? Certo. E beh, perché è difficile andare via da una bella città come Roma. E quindi è una scelta di... E quindi... Cioè non gli dici fai questa... Non gli dici... Ma assolutamente dici, no. Dici fai la scelta che più ti... Ma è chiaro. Più ti conviene anche economicamente, professionalmente. Ma io penso proprio di sì. Però ma è anche vero perché che... lui la farà comunque. È vero che per vincere dovrebbe andare via. Su questo non c'è dubbio. Per vincere subito, no? Non è detto. Subito. Beh, certo, c'ha 29 anni quasi. Dunque. Quindi gli piace... Però secondo me gli piacerebbe più vincere con la sua maglia. Questo non c'è dubbio. E quindi farà questa scelta. Se gli piacerà soffrire un po' di più... tentando di vincere con la sua maglia, oppure andando a tentare comunque di vincere con un'altra maglia e in altri climi. Però guarda, veramente io penso che le persone debbano esercitare il loro diritto alla vita. Dunque, no, ma non c'è dire. Tradimento, no quando c'è la professione, sì, e sì. Quindi non è non siamo nelle passioni, sì, sì. Secondo me bisogna seguire la professionalità. Poi se la professionalità si accoppia alla passionalità... Quindi scelga allora, con la testa e con il cuore. Assolutamente. Cioè uno può scegliere in tanti modi. Il modo in cui lui sceglierà sarà giusto. Io la penso come Antonello Venditti. Non so voi. 800 24 00 24. Intanto c'è Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid, che adesso ci canta Grazie a Roma. No. No. E perché? No, così. Tanto per sono richieste pesanti. No, prima un accento un po' romano. Sai, no, così, ma tanto per. Abbiamo sentito Venditti. Prima abbiamo scoperto che io non lo sapevo, ma che Alessia Ventura è tifosa della Juventus. E mi pare anche di aver capito che Pippo Inzaghi non fa più parte della sua vita. Guardate un po' cosa andiamo a scoprire noi di A Tempo di Sport. Invece, ci risiamo. Allora, mi avete ucciso in zona mista, avete vinto il mondiale, la stampa vi protegge. Sì. E Sergio Ramos, secondo le situazioni in campo, bisogna cambiare le marcature. E visto che lei non ha mai giocato queste cose, non le sa. E Casillas, che da lontano interviene, mister, le cose si dicono in faccia. Volano gli stracci. Nello spogliatoio di Madrid sono tornati a volare gli stracci. Sì, era dai tempi di Capello che non c'era questa bella atmosfera nello spogliatoio del Real Madrid. Quindi adesso che succede? Adesso intanto... tra un paio d'ore, tre ore, c'è una potenziale bella partita. Real Madrid Athletic Bilbao, sì. Vediamo cosa dice Bielsa. E poi se Real Madrid vince si va avanti fino alla prossima fino a mercoledì, 5 punti almeno di vantaggio. Il Barcellona ha appena segnato Messi, sta vincendo a Malaga. Se non la butta via, come spesso gli succede in trasferta, si porta 2 punti, poi Real Madrid tornerà a 5, andiamo avanti. Poi arriviamo a mercoledì, dove purtroppo per il Real Madrid c'è un'altra partita con Barcellona, la decima, che come la decima che si sogna qui, la decima Champions League, no? Quella che dovrebbe arrivare, che per ora. Quanto sarà importante quella partita visto il momento? Decisiva. Ovviamente non per il risultato, che mi sembra difficile che il Real Madrid possa ribaltare la situazione. Però due cose: uno, chi fa giocare Mu, due, il risultato, perché se piovono pietre, sì, dopo Mourinho sì, insomma, è in una posizione di grandi difficoltà. Allora, se la gioca con i titolari per dirgli adesso ci pensate voi, e se perdete, perdete voi, sì, o gioca con le riserve e rischia di prenderne magari 5. Secondo me è la prima che hai detto, ma tutta, certo, la vita, ma è tutta, chiaro, la vita. Perché qual è il problema? Che quando lui perde 3-1 il classico in casa a dicembre, quello di Liga, col Barcellona che sembrava mezzo morto, e il Real Madrid che poteva andare a un potenziale più 9, sì, quando lui rientra negli spogliatoi, la prima cosa che gli dice: vedi, volevate giocare all'attacco? Ecco qua, ben vista. E ha ragione. No, secondo me non ha ragione. Perché abbiamo già fatto questo discorso. Ma allora, se c'hai 5 campioni del mondo, c'hai Ronaldo, c'hai Ozil, c'hai Kakà e tanti altri, dai, non puoi giocare come l'avellino di Somma. Ma tu vuoi portare a casa il risultato o vuoi continuare a prendere schiaffi? No, tanto li ha presi comunque. Giocando all'attacco, giocando in difesa, sempre. Ma l'anno scorso mi sembra che in finale di Coppa del Re, secondo me, è quello, sì, il tipo di partita che Real deve giocare. Però ma quanto basta? Un'intensità sacchiana che non abbiamo mai più visto. Ma è quello che serve per, se vuoi battere il Barcellona, se ti metti a giocare a pallone, neanche se sei Real. Se tu giochi con Altintop, che c'ha 20 minuti di Liga nelle gambe, se giochi con Carvalho, che non giocava dal 27 settembre, l'intensità sacchiana è un po' tosta da tirar fuori. Cioè lui ha tirato fuori una formazione surreale l'altro giorno. Questo perché è vero. Gioca Coentrao e non gioca Marcelo. Questo è certamente vero. Ciò che non mi toglie dalla testa è che... Poi comunque tu devi, Carlo, bisogna rispettare il DNA o ADN, come si dice in spagnolo, del Real Madrid. Cioè hai preso schiaffi di ogni colore e maniera, no? Perché prima dell'altro giorno c'era una vittoria su 8, ora siamo una vittoria su 9. Perché devi schierare quel tipo di formazione tirandola in faccia al Bernabeu, che spera sempre di veder giocare bene e vincere qualcosa? Si è sbagliato. 800 24 00 24, numero verde. C'è anche l'1-2, che è il punteggio di Arsenal Manchester United, perché 10 minuti dopo il pareggio di Van Persie che vi ho raccontato, Welbeck ha dato di nuovo il vantaggio allo United, e siamo all'86esimo di questa partita. Ma soprattutto c'è Filippo Maria Ricci collegato con noi, cui domando come va a finire questa storia secondo lui, perché la storia recente di questa stagione dice che quando sono volati gli stracci nello spogliatoio del Real, poi Mourinho si è autocensurato e da lì è cominciata una serie lunghissima di vittorie sul fronte interno e su quello internazionale. Adesso cosa succede? Intanto ti dico che è finito il primo tempo del Barcellona, che vince 1-0 a Malaga. Sì, io squalificherei comunque Messi, andava squalificato perché la mano sotto la scarpa di Pepe non la doveva mettere. Esatto, quello certo. No, però quella era la Coppa, non veniva squalificato per il campionato. Lo squalificherei su tutti e due i fronti, visto la gravità del gesto. Certo. Allora, cosa succede? Succede che ci vuole una vittoria, di un titolo, sì, per risanare il tutto. La vittoria di un titolo, però come si campa adesso uno spogliatore del Real? Cioè, cosa succederà secondo te? Mourinho torna ad autocensurarsi? No, il problema è che c'è una frattura. Prima, nello spogliatoio, si parlava quello che qui viene definito il portugnol, no? Sì. Tra portoghese e spagnolo. Sì. No, adesso sono due lingue, il portoghese e lo spagnolo, sono separati. E finché non si ritorna a parlare questa lingua, non è tanto Mourinho, perché cosa succede? L'episodio che hai citato tu veniva dopo la sconfitta con Levante, il pareggio con Santander, col Racing. Lì è Casillas che, a nome dei compagni, gli dice: bello mio, adesso ti dai una calmata. Lui si dà una calmata e comincia e vincono tutte le partite fino al classico. Claro. E lì di nuovo lui gli dice: vabbè, io mi sono dato una calmata, però abbiamo perso lo stesso. E lui ricomincia un po' con le sue cose. Adesso non è che c'è molto da dire, qui si è rotto il rapporto. O lo ricompongono per vincere, cosa per me sempre complicata, oppure vanno giù tutti insieme. Per quello, vediamo stasera. Stasera per me è un buon test. È vero che in casa il Real Madrid vince quasi sempre, è troppo forte per le rivali di questa liga. Però l'Atletico Bilbao è una squadra interessante, certo. Può mettere in difficoltà, giocano loro sì con grandissima intensità, e vediamo anche come reagisce lo Stato stasera. Fischieranno Sergio Ramos, se la prendono con i giornalisti che si inventano le cose, che non se ne sono inventati niente, perché quella sì. È una filtrazione chiaramente. Sì. In più c'è l'ultimo aspetto, come sì. Fa Marca ad avere quel dialogo? Ah. Come fa Marco ad avere quel dialogo? Come fa? Vuol dire che qualcuno gliel'ha dato. E qui secondo me si sono sciolti i primi nodi, sì. Della zavorra, e chi a sciogliere i nodi è Florentino Perez. Sì, è quello che dico io, che Mourinho comunque ha sempre vinto con un gruppo ossessionato dalle sue idee e disposto a morire tutto intero per le sue idee e per il suo allenatore. Voglio vedere se riesce adesso a vincere questa sfida in una situazione in cui non si è mai trovato. È la prima volta che gli succede, però cosa è successo? Che noi l'abbiamo detto anche altre volte. Mourinho è venuto in Spagna e ha continuato lo stesso discorso che faceva al Chelsea e all'Inter. La sindrome dell'accerchiamento, sì, tutti sì, contro sì. di noi, sì, sì. Ma che non lo puoi fare con Real Madrid, con la storia che c'è politica, sociale e calcistica. Questo è vero. Se mai sono loro che accerchiano gli altri. Esatto. Filippo. Allora adesso deve di nuovo. È la prima volta che si è trovato di fronte a quella situazione nuova e non l'ha saputa gestire bene, perché ha fatto la sindrome dell'accerchiamento e non ci siamo. Adesso è la prima volta che c'ha i giocatori contro. Quindi anche lui. Poi è special one e deve dimostrarlo e rimettersi in carreggiata. Secondo me quando lui va in conferenza stampa in maniera più tranquilla e vincono una serie di partite di fila, aveva dimostrato una grande intelligenza. Adesso deve trovare di nuovo un'altra reazione di questo tipo. Però ha due problemi. Uno, vabbè, la partita di stasera più o meno, però che c'è un altro classico. Se le cose vanno male o molto male, gli serve una vittoria stasera e gli serve salvare la faccia a Barcellona, mercoledì, se no si fa grigio già da subito per il comandante Mu, come lo chiamano ancora gli interisti a queste parti, compreso Mario Boni. Filippo, io parlerei con te anche di Coppa d'Africa, di cui sei massimo esperto vivente, parlerei con te anche di Hector Cooper, ma lo faremo una delle prossime volte, tanto ci sentiamo in continuazione. Va bene, ti lascio al Barça. A voi. Ti lascio al Barça e allo scorrettissimo Messi, che ha messo quella mano sotto la suola di Pepe. Donato da Bergamo e Sergio da Milano, e poi aggiorniamo la seduta in attesa di Palaspicchi delle 20:30. Donato, buonasera. Buonasera, complimenti per Grazie. La trasmissione. Io sono di Bergamo, ma sono un romanista sfegatato. Sì, sì. Ecco, riguardo al discorso di prima del non so, di De Rossi. Ho sentito cosa ha detto Venditti, perché ero al telefono col vostro collaboratore, Venditti. Ma per quanto riguarda, se vuole glielo riassumo, ha detto che se andasse via da Roma non sarebbe un tradimento ma una scelta professionale, grosso modo. Sulla qualcosa posso anche essere d'accordo, ma siccome io sono convinto che invece De Rossi firmerà per la Roma, come comunque ha fatto il suo capitano Totti, bisogna solamente levarsi tanto di cappello di fronte a questi giocatori che in mezzo a tutta questa mercificazione dello sport, in mezzo a tutte queste, scusate il termine forte, meretrici del calcio che si vendono per qualche euro in più, qui si ha invece la vera esplicitazione, la passione per il calcio, per la maglia. Sì. Però guardi, Donato, posso dire una cosa, non credo stare a fare dei calcoli. Beh, si possono fare anche dei calcoli professionali, Donato, si possono fare anche dei calcoli professionali, cioè io sono d'accordo con Venditti nel senso che non mi sentirei di criticare la scelta di De Rossi qualora dicesse cara Roma, vado a dove vuole lei, scelga tra quelle che in lizza per la Champions League, perché lo vogliono tutti, dal Barcellona in giù. Lo vorrebbero tutti un giocatore come De Rossi. Se lui dicesse fin qui sono rimasto, adesso vado a fare una scelta di questo tipo, che è professionale, che vuol dire economica, ma anche di vita sul campo, della possibilità di provare a vincere da subito dalla prossima stagione una Champions League, se poi decide di legarsi alla Roma, ma è una scelta non professionale, se vogliamo romantica, bellissima da un altro punto di vista, però di diverso peso e spessore. Più che altro io credo che insomma De Rossi sia anche stato tormentato dalla la possibilità di fare un dispetto forte anche in termini economici alla Roma, perché perdere un giocatore come De Rossi a parametro zero è un suicidio totale. Quindi credo sia stato, volendo davvero bene a questa squadra, in cui tra l'altro lavora suo padre, in cui è cresciuto, eccetera, eccetera, eccetera, la storia la conosciamo, però provocare alla Roma un danno di questo tipo penso sia stato uno dei motivi che hanno portato De Rossi fino a questo punto, cioè con quella firma che ancora manca. Sergio da Milano, grazie Donato. Sergio da Milano, buonasera. Buonasera, una domanda adesso dopo questa dell'ascoltatore che mi ha preceduto, un po' in contrasto. Sì. Volevo chiederle come vedrebbe De Rossi nel centrocampo del Milan, nel senso quanto accorcerebbe la distanza che adesso abbiamo. De Rossi lo vedrei, taglio la testa al topo, De Rossi lo vedrebbe bene in qualunque centrocampo al mondo, non quello del Milan, quello dell'Inter, a parte il fatto che dovesse venire via da Roma, non andrà in un'altra squadra italiana. Ma io che non vado in Italia. No, ma mi sembra evidente, se è stato detto e chiarito. Non andrà in una squadra italiana, andrà all'estero in una grande squadra che possa puntare alla Champions League, che possa comunque partecipare al grande gioco. Detto questo, un giocatore come De Rossi, uno dei più forti del mondo nel suo ruolo, se non il più forte, con quelle caratteristiche, lo vedrebbe ovunque. Se no, sì, spererei che rifacesse la scelta di Ancelotti, che come? Venne al Milan. Spererei che rifacesse la scelta di Ancelotti, che venne al Milan. È vero che c'erano gli olandesi, uno dei tasselli migliori in quella campagna. Ma infatti Ancelotti fece una scelta di questo tipo, cioè andò in una squadra vincere. Che pagava molti soldi e che era presumibilmente pronta a vincere dopo quella campagna acquisti, cosa che puntualmente poi si verificò. Grazie a tutti, ci vediamo qui, scendiamo qui, ma torniamo alle 20.30 per parlarvi di basket. Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo più tardi. A tempo di sport.